Radio 24. Libera la voglia di fare. Voice Anatomy, viaggio nei mondi della voce, di Pino Insegno. Benvenuti, bentornati, signori miei. Domenica 7 maggio, 14:33 primi, anzi quasi 34 ormai. Sono qui in diretta, già al mio fianco c'è il nostro primo ospite, un attore doppiatore straordinario che è Fabrizio Temperini, che saluto. Ciao, e ringrazio. Ciao, la voce di Josh Clooney, di AR, di Michael Emerson, il Finch di Person of Interest e di Lost, anche direttori, doppiaggio di tutto questo e di quant'altro. Con lui faremo un bellissimo percorso, ma dall'altra parte del filo telefonico c'è un giovane cantante, almeno aspira a diventare un numero uno della musica leggera italiana, mi sembra giusto spingerlo in questa direzione. Lui si chiama, pronto? Pronto, ciao Pino. Signori, dall'altra parte c'è Bobby Solo. Eccolo. Ma sei un giovincello, Bobby, tu sei Highlander, bisogna tagliare la testa spirito, per capire. Solo di spirito, però siccome abbiamo fatto questo spot con Redroni, dove mi hanno fatto bellissimo passare per un emergente, esatto, allora io ho questa speranza di emergere. Ma la cosa bella è che voi, che avete questa grandissima personalità, avete investito tanto su voi stessi, avete imparato tanto. Grazie. E vi siete gestiti bene e siete qui e siete ancora voi, non è che... Grazie, no. Grazie di cuore. Ma che grazie a te. Io seguo il tuo programma, seguo molto Radio 24, ecco. Seguo Enrico Ruggeri, mio caro amico. Bravo. La Zanzara. Bravo. Seguo Soundcheck. E siccome faccio anche adesso un progetto che sì, si chiama Sing for the King, cioè sono dei pezzi sì, di Elvis tratti dai musicarelli, uh-huh, arrangiati un po' tipo Nat King Cole negli anni Ma 50. Che bello, io ho doppiato da poco Elvis e Nixon, doppiato Elvis, grazie, una voce impossibile, grazie. Poi, una voce difficilissima perché lui Elvis era quell'accento del Tennessee. Beh, il famosissimo accento del Tennessee, no? Beh, chi è che non... I wanna say, è vero, è questo. E che differenza? Sì, fammene un altro d'accento dell'America centrale, che ne so, per farmi capire. Sono solo Elvis. Ah, tu, perché, tu e Little Tony, già cioè, Elvis. Noi come... siamo, perché adesso Tony è in paradiso con sì, Elvis, sì, sta con lui. eravamo sempre immersi nel nostro idolo e tuttora io lo sono, Noi lo so, non ha mai sono smesso, stato non hai mai smesso. Da 10 giorni sono tornato da trovare i miei suoceri in Alabama, poi mi sono come fatto coraggio. Ah, è vero, perché tu hai una è vero, tua moglie è americana e è anche orientale, è coreana, però nata in America e americana. Bisogna parlare con Trump adesso un attimo, un po' di difficoltà, però non glielo dire. Vai avanti tu, Bobby, vai avanti tu lì. E allora sono andato a trovare Memphis, sono andato alla villa di Elvis, uh-huh, che tra l'altro è una villa del 39 di un medico, uh-huh, di Memphis, ma è piccola, cioè rispetto alle ville, io adesso che abito, come ti dicevo poc'anzi, sì, vicino a Viano, dove c'è una base militare americana lì nel Friuli. Sì, spiegalo perché se non sembra che fai il pilota, perché sei lì vicino? No, perché no, tua no, moglie ha degli amici. C'ha un po' di amicizie, ragazze che conosce, e poi si può a volte entrare nella base e comprare qualche prodotto americano da mangiare. Madonna, mi sembra Alberto Sordi, un americano a Roma. Guarda, tutti che mi hanno detto questo. Ma dai! Ero nell'80, dopo il successo di Gelosia, mm-hmm, una montagna ad Accettura, mm-hmm, e mi è arrivato due ragazzi giovani, siamo di Radio Matera International. International, e certo. Allora mi fanno: Pop, come risolveresti il problema della droga e della fame nel mondo? E io gli ho detto: drogatevi e mangiate di più. Che sempre, mi sembra la cosa più giusta. Ma insomma, tu sei contento di essere nato in questa nazione? O magari per un attimo? Io amo l'Italia. Sì, cioè quello lo so, mi profondamente. Piace per quanto concerne la musica. Sì. Però sono stato 20 giorni, quando sono tornato sembravo, diciamo, un musulmano, perché ho baciato il suolo di Fiumicino. Bobby Solo è impazzito, ha demenza senile, e invece no. Senti, sentiamo un momento dell'ultimo brano, il titolo anche quello è particolare. Sì. No? Lo vuoi presentare tu? È perché io non so quale avete scelto. Come? Al tuo amore non ci credo. Che poi non è vero, perché io credo tantissimo. Che poi ha scritto te, non è mia, ma scusami. No, quello è il paroliere, che probabilmente... Il paroliere, come non c'è più niente da fare, io esatto. Faccio la musica. Non c'è più niente, io l'ho fatto, ti ho imitato a tale quale show, sembrava Bobby Solo che imitava Pino Insegno. Anche truccato non c'è stato niente da fare. Non mi rubare il lavoro. No, guarda, con me stai tranquillo, Bobby. Sentiamolo un momento di quest'ultima fatica, insomma, ne vale la pena. Un minuto, ascoltiamola. Io al tuo amore non ci credo. Forse non lo capirai, troppe volte sono caduto, scivolato in mezzo ai guai, nel profilo tuo rivedo tutto quello che già so, che ho vissuto troppe volte, certo non mi scorderò. Giurami pure che con te sarà tutto diverso, ma la verità sono parole, parole che il vento disperderà. Il tempo delle mele per me e vivere e morire di te, che so chi sei, non so chi sei e quanto resterai. Ebbene, questa è l'ultima fatica di Bobby Solo, che è caduto, non lui, ringraziando il cielo, ma la linea è caduta, forse qualche aereo vicino, Fabrizio? Con la base. Ma tu la senti la voce? Qui parliamo di voce, la voce di Bobby Solo è cambiata di una virgola, no, rispetto a quando c'aveva 20 anni? Identico. Ne sono passati 60 da quel giorno, più o meno, non voglio aumentargli l'età a Bobby Solo, ma... Sì. E dalla lacrima sul viso. Sì, ma questa è la voglia... Le intenzioni mentali. L'entusiasmo. La voglia... Il fatto di rimettersi in gioco ogni volta. Io non so se i giovani adesso o le persone che intraprendono un mestiere artistico siano così preparati ad affrontare un futuro così. Beh, non lo so, io me lo auguro per loro, perché poi in realtà è l'unico modo per cercare di farcela. Sì, crederci profondamente. Ma intanto sentiamoci un Fabrizio Temperini d'Annata, di apostrofo Annata ovviamente. Tu, la prima grossa soddisfazione ne hai avute tante, perché però fare Josh Clooney, quando ancora Josh Clooney era all'inizio, ma soprattutto nella serie forse più importante, una delle madri di tutte le serie. Questo George Clooney che ha fatto innamorare tutte le donne italiane, no? Ma c'era la voce tua, però. Certo, ma tu ci hai provato questa storia, mai a dare una ricetta? No, dopo te la faccio da, però. No, vabbè, poi c'è mia moglie all'ascolto. Sì, no, vabbè, che c'entra, era già moglie all'epoca di Josh Clooney, allora no. Si può dire. Tu ricordali sempre i tempi quando parliamo di queste cose. I riferimenti temporali. Il riferimento temporale. Ascoltiamoci un momento. Quanti anni fa era AR, Emergency Room? È tanti. Tanti, proprio tanti. Del 94, più di 20 anni. Mamma mia. 23. Sta buono, lascia stare. Non lascia stare. Ascoltiamoci allora un giovane Fabrizio Temperini su Josh Clooney, AR. Andiamo, Doug. Eccoti qua, non ti avrò mica svegliato. Sì, signore. Tu sei un vero amico, te lo volevo dire. Ti ringrazio. Un vero amico. Purtroppo, camere ce ne sono. Ce l'avete un letto per me? Sì, la 3 è libera. Libera la 3. La 3. C'è la 3. 3 per 3? 9. E in marcia. Andiamo, dai. Vai, vai, io ti seguo. Ma non scordar che m'hai rubato il cuore. Bello, Luciuccio. Arrivato, no? Che bello. Ho letto. Non so dirti quanto ti sono riconoscente, Mark. Sono un po' nel pallone. Ora mettiti giù, Direi che faccio da solo. Ci sono. Di 5 NS, vai col destrosio. 600 di acetil salicilico. L'aspirina, porca, mi scordo sempre l'aspirina. Beh, è andata così. Lei attacca dicendo... Non lo sapevo che voi pediatri foste tanto sexy. E io le faccio: bimba, non hai ancora visto niente. Molto bene, fammi una flebo, ne ho proprio un gran bisogno. Sto giù, Doug, lasciami lavorare. Oh, come sta la tua strepitosa mogliettina? Sta benone. Bene, avete risolto il problema? Sì, sì, il problema è risolto. Tu non lo puoi lasciare il pronto soccorso. Beh, dai, anche te non sei cambiato tanto vocalmente. No, beh, sì, insomma, un po' sì. Pensa che questa è la prima scena. Sì, questa è la prima puntata. Non solo, ma quella era la scena dove io feci il provino. E questa cosa di ciccio fu una cosa che mi inventai io perché lui non ce l'aveva. Però lui aveva questa cadenza ogni volta che si rivolgeva al suo amico Green. E quindi io mi inventai questa cosa di chiamare. Chi era il direttore di doppiaggio? Era Gianni Galassi. Gianni Galassi, che è tuttora vivente. Accidenti. Che bravo. Sì, ottimo, sì, anzi, ottimo, straordinario. Sì, bravo, anche bravo. E lì poi lì si creò quelle cose magiche che succedono sempre. Questo gruppo unito di noi interpreti. In realtà ci siamo lasciati prendere tutto questo gioco entusiasmante. E poi Clooney era veramente, era diverso dagli altri, perché lui aveva questo modo di recitare che io intendevo sempre molto di nuca, perché lui era sempre un po' chinato con la testa e guardava di sotticchi le donne, le cose, capito? Lo allora... faccio io, sembriamo te, siamo due gobbi, e invece lo fa lui, viene particolare, capito com'è? Vabbè, ma la grande personalità già si leggeva da lì, insomma, sì, che sarebbe diventato qualcosa. Io poi una volta ho avuto modo di parlarci e siamo rimasti tutte e due abbastanza, mi è successo una volta, ci siamo parlati, lui ha realmente la voce identica alla mia, infatti lui mi ha guardato per prima, ha detto ma non è possibile questa cosa, ha detto sì. Che bello, poi ha guardato il corpo, ha detto tranquillo Fabrizio, esatto. Tranquillo. No, la voce era uguale. Allora, fisicamente sei alto, pure lui è altino, io l'ho incontrato ai Telegatti con lo smoking, devo dire che c'avevo smoking pure io, sembravo vestito da qua maglietta di una squadra di calcio. Vabbè, ma ci sta. Va bene, siamo arrivati alla fine del primo blocco, ma tu starai con noi almeno un'altra mezz'ora, dobbiamo fare un bel percorso insieme. Tra pochissimo Voice Anatomy, Fabrizio Temperini che ci leggerà come si cura la sinusite con la voce di Giorgio. Cluni, tra poco qui preparati che se i tuoi colleghi fanno anche di peggio. A tra poco, perché Voice Anatomy è appena cominciata. Grandi cambiamenti in vista? Scegli Gondrand Traslochi per il tuo trasloco internazionale. Gondrand.it vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, al mio fianco Fabrizio Temperini. Abbiamo ascoltato uno dei suoi primi grandi successi, doppiare Josh Clooney in AR. Abbiamo sentito prima Bobby Solo e poi è caduta la linea. Adesso spero che sia caduta soltanto la linea. E dall'altra parte saluto Alessandro, sempre pronto e puntuale come tecnico del suono, la caporedattrice di se stessa Rachele, i miei straordinari autori Alessia Navarro, capo progetto, eccola lì, e Mauro Meconi, bravo autore ma grande attore, grande regista. Bene, sono circondato da grandi. E allora a Temperini gli ho chiesto, ti prego Fabrizio, a questo punto, come tutti i tuoi colleghi si sono alternati a questi microfoni facendo delle cose particolari, perché non mi leggi con un po' di Josh Clooney come si cura la sinusite? Lo so, è una cosa. Lo so, me lo dovevo aspettare. Lo so, dovevi aspettarti. Anzi, grazie al cielo che sia andata così. Però prima partiamo con la sigla di AR. Vai. Professore, c'è un caso di sinusite. Come possiamo curarla? Molte infezioni dei seni paranasali si risolvono con misure di automedicazione e trattamenti medici. In caso di frequenti recidive si dovrà escludere la presenza di cause come i polipi nasali o altro, come le allergie. Però, caro, i medici possono prescrivere degli antibiotici da assumere per via orale per curare i casi di sinusite con presunta origine batterica. Secondo alcune linee guida, l'antibiotico andrebbe somministrato per 14 giorni, quando si tratta di sinusite cronica, fino a quando il paziente non è libero dai sintomi per almeno 7 giorni. Se dopo 5 giorni di terapia non si rivelano miglioramenti, è bene cambiare antibiotico. Non è invece dimostrata l'utilità dei mucolitici o degli espettoranti. Era entrato Mauro, perché nuovamente la riprendiamo la scena così per metterla su Facebook. A proposito, continuate a seguirci, ma non l'ho avvertito e si è arrabbiato con me. Vabbè, dottore, grazie. Si porti un'altra ricetta, perché fa piacere anche con queste cose, cure vere. Non ha detto nomi di medicinali perché non avremmo potuto fare. Fabrizio, tu quando hai cominciato col doppiaggio? Hai cominciato come attore? Perché poi ho cominciato con l'accademia, il teatro. Tu hai fatto l'accademia? Sì, vero. Il teatro che ho fatto, che ho avuto la fortuna di fare con dei grandi tipo Tino Boazzelli, Giancarlo Sbragia, insomma grandi del passato che mi hanno insegnato molto. Moltissimo, Orazio Costa, che è stato il nostro maestro. Guarda, che generazione, poi sei giovane, sei del 54. Sono del 54, sì. Sono... Si può dire? 20 maggio, tra poco? Sì, sì, sì. Lo vedi?

volevo tutto quello che avevi tu. E che cosa avevo? Tu eri speciale, John. E io no. Se può confortarti, Ben, io ti perdono. Grazie, John. Sì, mi conforta. Non immagini quanto significhi per me. Che cosa farai adesso? Devo ancora sistemare un paio di faccende e resterò qui per un po'. Sì, dovrei restare qui per un po' ancora, un attimo. Ma con un enorme piacere. Tu e Rodolfo Bianchi, che ogni tanto cerca di assomigliarmi, ma non ci riesce. Vabbè, lasciamo stare. Non glielo diciamo. Beh, un bel passaggio. Vedi che significa anche cercare di interpretare dei ruoli. Qui c'era un uomo di un certo tipo, accompagnato poi da una musica bellissima, eccetera. Dall'altra parte c'era un professore zoppetto, eccetera, che sapeva tutto. Cioè, modificare la propria voce, le proprie indecisioni, anche rispetto a quello che ha fatto lui, ovviamente. Certo. Ma dietro ci deve essere un attore. Sempre. Dietro ci deve essere un attore. E peraltro il doppiaggio è una straordinaria palestra per un attore, proprio per questi motivi, no? Perché tu lo sai bene, i turni, no? Magari passi da fare un serial killer a... Sì, un impiegato, certo. Sì, oppure al medico fascinoso alla Clooney, no? Cioè... A te non te capi, cambiano tutti i professori universitari. No, gente, non è vero! Resta qui con noi, a tra pochissimo, con Fabrizio Temperini, a voi sanatovi, a tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, sempre in diretta con Fabrizio Temperini. Abbiamo trovato un modo per farlo lavorare tantissimo, lavorare la sua vita, invece lo stiamo facendo lavorare. All'inizio ci ha letto con la voce di Clooney di AR, la sua voce, che ho prestato per 13 o 14 stagioni, non lo so quante sono state, Fabrizio. Un pochino meno. Visto che non l'abbiamo ripresa per il nostro sito molto frequentato di Facebook, adesso siamo addirittura anche in diretta Facebook, allora abbiamo dato la cura per l'acne, però cioè, vorremmo che tu ce la leggessi come Clooney di AR, ma poi che andassi su Finch di Person of Interest e poi per arrivare a Negan, il cattivo terrificante di Walking Dead. Vabbè. Eccoci, è partita la musica. In passato la terapia di cura dell'acne era basata sull'uso di antibiotici, perché si riteneva che i batteri della pelle causassero l'acne, mentre poi si è scoperto che sono solo una conseguenza. Non c'è dunque alcuna necessità di trattare l'acne con l'antibiotico, anzi è sconsigliato, dato che l'antibiotico può creare resistenza batterica. E Michael Emerson. Mai. Una condizione che può rivelarsi problematica se in futuro il soggetto incorre in infezioni, anche serie, che necessitano di antibiotici. Che bravo. Se l'acne può durare 2-3 anni, l'antibiotico non può essere somministrato per più di 15 giorni consecutivi, per cui alleva l'infiammazione solo temporaneamente. E adesso Walking Dead. Non serve nemmeno la somministrazione della pillola anticoncezionale. Dio mio. Considerato appunto che l'acne, nella stragrande maggioranza dei casi, non dipende dagli ormoni. Grande! C'è stato in diretta, c'è stata qualsiasi cosa in diretta. È successo solo così. Pino poteva inventarsi una cosa. Ma che bello, ma con questo, cioè, voi sanatomi, l'anatomia della voce, ok? Questo significa saper gestire la propria vocalità. Quello che dico sempre, voce bella, voce no, le giuste intenzioni. Le intenzioni. Il colore di quello che hai dato. Hai fatto tre persone completamente diverse. Ed eri sempre tu perché è stato testimoniato dalla diretta, Fabrizio. Ed è bellissimo quello che hai fatto. Infatti c'è stato, è un peccato interrompere la diretta Facebook, perché ci sono già centinaia di visualizzazioni in un attimo. Soltanto che la radio è radio. Ma sì. E deve essere evocativa in qualche modo. Ora questi sono esercizi di stile. Insomma, stai a fare sto cattivo ultimamente, niente male. Che stai dirigendo a parte Euripides? Adesso ho finito e sta andando in onda su Sky Atlantic Tabù. Ah, bello. Questa serie come molto no? Bella. Ambientata in una Londra 1800. E torno a dirigere VIP, che è una serie americana di grande successo, Vice President, che sto facendo questi giorni. Faremo poi Britannia con Pino, che farà il centurione romano. Esatto, è tutto molto in romano. No, no. Ho finito un film che si chiama Nerve, che è un film tremendo. Sì, in particolare, ho visto il trailer. Abbastanza tremendo, perché sono dei giochi che si fanno col telefonino fra utenti in quello che è poi il grande mondo sommerso di internet, che è il dark web, che in realtà pochi conoscono, fortunatamente, perché è pericoloso. E per cui da personal interest, dove le telecamere, qui c'è il telefonino. Qui arrivano tanti messaggi di ringraziamenti, di sorrisi, di risate, di grandi complimenti. Questo mi fa ridere. Josh Clooney sinusite? What else? Questa mi fa ridere. E poi ti salutano, ti ringraziano, eccetera, eccetera, eccetera. E poi si dice, qualcuno mi corregge, si dice IR, no AR. ER. Lo so, io ho detto AR fino adesso, no, ma no, sono veramente emergency room. E lo so, ma io sono veramente pronto soccorso. Esatto. Io infatti lo dicevo, io sono la risposta italiana, giusto, io faccio ER pronto soccorso. Esatto. Perché essendo di Roma, quello è. Senti, tu hai fatto anche un altro grande film bellissimo, che è il mio piede sinistro, che non è la storia di Gigi Riva, come qualcuno può immaginare. Quello è il film che ho amato più. Gene Sheridan, vero, la regia dovrebbe essere Gene Sheridan era Daniel Day Lewis, che gli fruttò il suo primo Oscar. Esattamente, che lui andò a ritirare mentre interpretava l'ultimo dei Moicani. Sì. Questo per dire che lui nel piede sinistro è questo uomo fortemente handicappato. Sì. Quando io ho visto il film mi sono detto, ma dove l'hanno trovato un attore handicappato bravo, con queste problematiche, così bravo? Perché lui a un certo punto recita l'Amleto. Sì, sì, è pazzesco, pazzesco. E allora il film l'abbiamo doppiato di questo periodo. Ti dico solo che io mi esercitavo al suo modo di esprimersi, perché chiaramente lui, essendo difficile, era proprio molto difficile. Allora provavo in macchina, io allora avevo una vecchia 500, quindi stavo col finestrino aperto e provavo tutte queste cose per poi arrivare al semaforo. Che è successo? Cioè, io mi ricordo una volta c'era una coppia di signori che la faccia era proprio, ma questo lo fanno guidare? Ma questo lo fanno guidare, non è male. Ma giustamente dà dei problemi. Periodo era tanto tempo fa, per cui ancora mi fanno ridere, come non c'erano le strisce gialle per gli handicappati, se ci fossero. Non esistevano prima. E io con la mia cinquecentina provavo questa appunto questa vocalità. Però un film splendido, se non l'avete visto, andatelo a vedere. Ormai noi cerchiamo sempre di indicare delle strade cinematografiche, anche musicali, ai nostri radioascoltatori, perché vale la pena. Il mio piede sinistro di Jim Sheridan, che è valso, ripeto, il primo premio Oscar a Daniel Day-Lewis, che poi è arrivato l'altro col Petroliere. Ma ne vale veramente la pena. Ascoltiamo un momento, ascoltiamolo, vediamo un po', sentiamo. Hai chiuso col paletto. Cristi? Non ci sono. Cristi? Non sono un bambino. Cristi, se vuoi, possiamo lavorare qui. Fottiti. Con la mia terapia posso insegnarti a dire fottiti più chiaramente. Fottiti. Queste erano le cose che provo in macchina. Fottiti. Dice, che ti ho fatto? È ancora rosso? Perché te stai arrabbiando con me? Il marito gli disse, ma questo lo fanno guidare. È bellissimo. Sì, perché succede che uno prova in macchina queste cose. Però hai scelto proprio il momento sbagliato, l'attore sbagliato. Senti, poi hai fatto tante altre direzioni di serie, come Six Feet Under. Bellissimo. Law and Order, che è una delle serie storiche. La casa madre, diciamo. Sì, quelli sono i padri o le madri di tutte le serie, perché insomma, a parte tutto lì. Ma la cosa che mi fa sorridere, perché anch'io ho fatto un ruolo quando cominciai, e mi ricordo che uno di voi gentilmente me l'ha dato, un ruolo in Quando si ama. Ma tu hai doppiato 8 attori diversi in Quando si ama. 8! Non è possibile! Guarda, Alessia Navarro è 6 personaggi. Vabbè, ma con Beautiful una cosa del genere. Ma succede. Quando si ama era come Beautiful. Ho capito, ma cioè, io quando ho letto queste cose, io mi ricordo, perché qualche turno l'abbiamo fatto pure insieme, ma io ne facevo uno, poi morì e vabbè. E perché i miei morivano, poi allora il direttore diceva: ma no, vabbè, ma tu c'hai una bella voce, questo lo puoi fare. Ma ho capito, ma è morto ieri all'altra puntata. Non no? So, insomma, cioè... Bellissimo, bellissimo. Sei ruoli diversi con 8 attori diversi. Esatto, hai fatto. Esatto. Vuoi chiedere scusa? Vuoi, devo chiedere ufficialmente scusa. Ufficialmente scusa a qualcuno. Però hai cambiato un po' voce? No. Beh, no, quelle erano serie che si facevano al volo, dai. Quando è che è cominciato il doppiaggio, nel senso il teatro con questi grandi, l'accademia, il doppiaggio, chi ti ha aperto quella porta? Che era un mondo ancora difficile, appannaggio di pochi. Eravamo allo Stabile di Genova a fare il bugiardo con Luigi Proietti. Luigi Gigi sarebbe, Gigi, no? Sarebbe Luigi Gigi. Esatto. E facevamo il bugiardo, in compagnia c'era un amico, un collega che si chiama Ugo Maria Morosi. Che è tuttora un bravo doppiatore. Un bravo doppiatore, una voce splendida. E che mi disse: ma tu c'hai una bella voce, ma hai provato a fare il doppiaggio? Io dissi: no, guarda, io oggettivamente no, non so. Finita la tournée, lui mi portò in sala e mi fece un po' vedere, poi provai un po', mi piaceva. Ed è nato così. T'ha portato a Ugo, praticamente. Ugo Maria Morosi. Convinto che magari avrei detto il contrario, nel senso che Ugo già era all'interno del mondo del doppiaggio. Sì, sì. Ma Ugo, bravissimo. E questo qui è Temperini? No, Scary Movie, no, ma che sei pazzo? No, mi ha portato una foto di Scary Movie, che sarebbe Temperini massacrato quella foto, ma non siamo in televisione. Vedi, infatti hai preso la scossa. Te sta bene, sparisci, non puoi interpellare i nostri ospiti in questa maniera. Per cui è stato Ugo che ti ha accompagnato. Sì. Senti, la nostra Rachele ti ha portato l'incipit di Person of Interest, che è bellissimo. Ma abbiamo anche la musica di Person of Interest, allora cerchiamo prima la musica, io senza non gliela faccio fare. Mi dispiace. Per cui da lì il doppiaggio e poi tanta anche cinema, fiction, televisione. Tutto. Sì, un film che credo è un film dei più replicati in televisione dopo Ben-Hur, che è Chewing Gum. Ah, Chewing Gum, che come credo no, che certo. Passa credo 10 volte l'anno. Di Biagio Proietti. Di Biagio, è vero. Proietti, dove ci siamo un po' di noi, cioè, ci sono io, c'è Luca Ward. Sì. Ah sì, è vero, c'è anche Luchino. C'è Ciavarro. C'aveva già la voce così Luca, già sì, io ho detto sempre stava così. Al suo segnale sempre. Mara Venier che era la anche lei parlava così. No, ma no. Che era la professoressa Isabella Ferrari. Erano quei film giovanili. E poi il professor Giancarlo Russo in Una donna per amico, per esempio, in televisione, no? Sì. Incantesimo 5 nel ruolo di Orazio Cusaro. E la stagione dei delitti nel ruolo del commissario Biavo. Ma hai fatto le cose? Ho fatto. E ne farai ancora. No. Lo sai che lo dico sempre? L'altro giorno lo dicevo a mia moglie, Maria. Ciao Maria, ci ascolta? Certo. Speriamo un bacione, sì. Un bacione. Io considero ancora, per quello che tu dicevi prima, la voglia di fare, considero un miracolo. Cioè io ho iniziato a fare questo mestiere che avevo 18 anni e ho sempre fatto solo questo lavoro, non ne ho fatti altri. E ho vissuto anche in maniera dignitosa. Sì, lo considero un miracolo, quindi i miracoli avvengono. Questo lo dico per i ragazzi che... Esatto, questo è quello che volevo chiederti. Lo stai dicendo poi dall'inizio, nel senso, quello che uno deve, un consiglio che dà agli altri è sempre questo: l'entusiasmo, la voglia, rimettersi in discussione ogni volta. Ce la si fa. Bravo. Evitando le scorciature, faticando. Bravo. Tu lo sai, sì, tu sei sì, un sì. Faticatore. E così deve essere, un bel mediano a centrocampo. Beh. Adesso hanno trovato la bella musica di Person of Interest. Fammelo questo incipit, perché è bellissimo. Eccolo. Quando vuoi. Siamo sorvegliati. Il governo dispone di un sistema segreto, una macchina, che ci spia ogni ora di ogni singolo giorno. Lo so, perché l'ho costruita io. Ho ideato la macchina per prevenire atti di terrorismo, ma vede ogni cosa. Crimini violenti che coinvolgono persone comuni, persone come voi. Crimini che il governo considera irrilevanti e poiché loro non avrebbero agito, decisi di farlo io. Ma mi serviva un socio, qualcuno con le capacità per intervenire. Le autorità ci danno la caccia, lavoriamo in incognito. Non ci troverete mai, ma che siate vittime o carnefici, se esce il vostro numero, noi troveremo voi. Ma che bello! Ma tu sai alla gente quanto ama il doppiaggio. Che poi bisogna convincere sempre ogni volta che non basta la bella voce, ma bisogna essere degli attori di base. Ma quanto lo ama? Beh, sì. Se c'è una tavolata, c'è un doppiatore, si parla di quello, come se c'è un medico, uguale. Si parla, io mi sento come, esatto, che esatto, mi dai. Esatto. È così un doppiatore. Per cui sentire queste cose, mi entusiasmo io ancora, sentire live una cosa, conosco te, conosco la serie, eppure rimango piacevolmente stupito e affascinato. Sai cos'è che lo dico? Quando appunto me lo chiedono persone estranee al lavoro, dico sempre, ma in realtà, ce l'abbiamo anche un po' accennato prima, mm-hmm. in realtà noi dobbiamo entrare in quelle che sono le dinamiche, i contrasti affettivi del lavoro, del personaggio, della dimensione, perché sono quelli che poi ci aiutano a risolvere da un punto di vista artistico il personaggio, perché sennò sarebbe uno spigheraggio. Che bello, guarda, nel frattempo, visto che noi amiamo l'osmosi dei nostri ospiti, ci ha raggiunto proprio perché Voice Anatomy tratta la voce in tutti i suoi meandri, in tutte le sue dichiarazioni. Voglio un blocco insieme, il prossimo, con la nostra ospite seguente, che è la dottoressa Francesca Romano. Ti presento. Buonasera. Salve. Puoi mettere la cuffia, dottoressa? Ah, grazie. Per capirlo. Possiamo lasciare la dottoressa, grazie. Lasciamo la dottoressa, sì, no, per dire alla gente a casa, grazie, sì. Chi sei, perché noi, certo, per esempio, non ho detto dottor Temperini, è laureato, ma non l'ho detto, perché è vero che ha dato dei consigli meglio di noi, visto che ha doppiato Josh Clooney in AR, visto che fa queste persone, può dare. Tu non puoi fare ricette, però non puoi rimettere ricette. Ricette non puoi fare. La dottoressa Francesca Romano è veramente importante per quanto riguarda la voce, perché ti leggo al volo: si diploma in canto presso il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma, è una professionista. Ha cantato sia come solista che in gruppi da camera e ha lavorato come attrice in teatro e televisione. Questo è un punto di vantaggio quando poi uno diventa anche poi dottore. Poi se lo dice un attore, accidente. Capito? Ha seguito inoltre studi universitari di psicologia e sociologia, ha conseguito il master in arti terapie alla LUMSA di Roma, didatta della voce e del canto con particolare attenzione ai processi pedagogici e trasformativi, collabora con diverse università e con centri di riabilitazione psicomotoria del linguaggio. Ha all'attivo numerosi articoli sulla voce e il canto pubblicati su riviste specializzate e sui siti web. Hai capito? Brava. Sei qui perché tu hai dei problemi e no, io volevo fartela incontrare perché risolviamo queste cose. Però voglio sentirla parlare. Certo, anche lei vuole sentirti parlare, ma vabbè. Che responsabilità, è una responsabilità incredibile. E allora ecco i nostri due ospiti del prossimo blocco, a tra pochissimo con Voice Anatomy. Voice Anatomy. Eccoci di ritorno, stavo con Alessia Navarro cercare di capire da dove partire per conoscere Francesca, la dottoressa Francesca Romano, per chi si pone soltanto adesso, e anche il mio amico Fabrizio Temperini è molto interessato a questo, e anch'io sinceramente. Insomma, il curriculum parla chiaro, le pubblicazioni sul tema della voce parlano chiaro, importante tutto quanto. Sei passata dal canto nella sua declinazione spettacolare a un'altra parte, a un approccio più terapeutico. Quando è venuto questo giro Ma di ti boa? Posso interrompere un secondo? Sì. Perché io devo fare un ringraziamento subito, perché certo, fallo. Gliel'ho anche chiesto perché non sapevo se potevo. Beh, dipende, ma se io una sono marca qui per Alessia. No, sono qui per Alessia perché sono Alessia molto Navarro. Sì, Alessia Navarro. Non Alessia so. Navarro, vieni di qua, ti prego. No. Lei è laureata, io ho fatto l'ISEF. Ecco, appunto, quindi magari ci possiamo intendere. È meglio. Vieni di qua, Alessia, ti prego. Navarro, vieni di posso qua. Posso ringraziarla un attimo? Ma lei è capoprogetto? No, ma non ho finito, aspetta. Sì, ah, no. Sì, esatto. Adesso mi dici, ma per al di là di quello che... questo ha avuto questo successo, questa trasmissione, perché io e Mauro Megoni siamo soltanto dei contorni in tutto questo. Ah, ho capito. E Alessia è quella che ha studiato. Ho capito. E allora, intanto Alessia, posso fare un ringraziamento ufficiale? Sì, questo è ringraziamento a Alessia Navarro. Aspetta, non ho ancora cominciato. Non è finito, mazza caratterino, Francesca Romano. Allora, vai. Io sono qui per lei, perché sì, di solito non parlo del mio lavoro, lo faccio, ma non mi piace parlare di questo lavoro, sono molto emozionata. Però è bello perché è terapeutico e aiuta. Noi abbiamo parlato con persone logopedisti, abbiamo parlato con persone ipnoterapisti, tutto ciò che riguarda la voce racconta questa trasmissione, e questo è stato il suo successo. Mm-hmm. E allora permesso. Questa persona e tu sei altro... così gentile, disponibile, seria e professionale, ed è, sono dote in via d'estinzione. Adesso non voglio fare quella di Alessia, dici? Esatto, è bellissima, la puntata è diventata tua, Alessia, anche perché Alessia la prossima settimana è intervistata perché debutta al Quirino il 16, ecco dove andrò con Frida Kahlo, per cui sarà ospite di questa trasmissione, anche se è un conflitto di interesse, niente male. Ecco. Sì, però, infatti è un conflitto di interesse, vabbè, però dai, ne approfittiamo. Puoi fare la prima domanda alla dottoressa, che io e Temperini ovviamente sono parole molto molto ti apprezzo davvero tanto, grazie. Facciamola apprezzare anche al nostro pubblico. No, questo è il tuo compito, invece è quello di presentare. No, fai la prima domanda tu, però. Io mi piace il tema della biorisonanza, mi piace molto. Allora, sì, ho chiamato questo lavoro psico-biorisonanza perché riguarda. In realtà mi occupo degli effetti della vibrazione della voce nelle strutture psicofisiologiche. E quindi la voce ha un effetto, la vibrazione della laringe ha un effetto, e io sono solo un'osservatrice di processi. Non sono psicologa, non sono medico. Osservo i processi che la voce, soprattutto cantata, mette in atto. E quindi è un mistero. Parlata, anche la voce parlata, assolutamente. Tutto quello che facciamo noi come mestiere, sì. Ma è quello che poi uno cerca anche di insegnare anche ai manager, alla gente normale, cioè dovrebbero insegnare, sei d'accordo Fabrizio, già a scuola sempre, il coaching, esatto. E l'italiano, mm-hmm. Ma non la grammatica soltanto, il parlare italiano, mm-hmm. E soprattutto il coaching, cioè come usare la propria voce per rendere, perché domani tu sarai un medico, tu domani sarai un senatore, tu domani sarai un comunicatore, tu sarai un impiegato, se quello che vuoi, ma la voce è l'elemento di comunicazione più importante al mondo e provoca, salva. Mi permetto di aggiungere che la voce è cantata, quindi questa voce vibrazione cantata. Che si prolunga e quindi ha un effetto davvero, cioè tu parli in proprio Italia, di terapia a questo punto. No, questa parola non, ecco, se posso raccontare un mio sogno è che sì. Stiamo attenti alle parole, perché le parole, esatto. Possono creare impatti, possono essere granellini, possono essere sassi. Però terapia è brutta, tu dici la terapia, pensi in Italia subito alla droga, usciamo dal tunnel della droga. Esatto, la terapia in Italia. Quella mia è di Temperini, insomma, siamo usciti poi bene. No, ma intanto non mi va di sconfinare. Non mi piacerebbe sconfinare in ambiti che non sono di mia competenza, quindi non sono una psicologa, non sono un medico. Sì, sì, no, ma andate qua, non è Striscia la Notizia, non siamo qui per scoprire dei meandri. No, è che la parola terapia può essere intesa in diverse... Però è un aiuto, insomma. Scusami, Francesco, quindi tu consiglieresti alle persone il canto come forma liberatoria? Questo stavo cercando di spiegare, che non è canta che ti passa e non è la panacea di tutti i mali, no, ma certo. È il canto come voce cantata, perché lo strumento è quello, è la laringe che sono le corde vocali che vibrano, quindi la voce cantata ha un effetto molto potente, molto forte nelle strutture, quindi mi capita di osservare delle situazioni veramente incredibili e affascinanti, ed è un universo straordinario. Noi ce lo siamo dimenticati, perché il canto nasce in Italia, il canto è italiano. Tutto nasce in Italia, ce lo siamo dimenticati. Assolutamente, e quindi il canto, sto cercando di riportare il canto nella sua giusta collocazione, perché mi piacerebbe, è un sogno, un'utopia, che tutti cantassero invece di parlare, perché ci nascondiamo dietro le parole. Ah, tu vuoi proprio declinarlo, esatto, così. Sì. È come se io oggi fossi venuto qui, ciao Pino, come stai? Ecco. Sì, ma poi siccome 118 è un tiro di schioppo, c'è il problema. No, sarebbe fantastico. No, non è io ho capito così. Qual è la tua provocazione, ecco, certo, appunto. Non è che uno può entrare in un negozio alimentari, esatto. Mi dà fetti di prosciutto. Diciamo che l'emozione passerebbe molto, in maniera molto più immediata che non la l'ironia parola. Soprattutto sì, ma la parola, perché lì, anche lì bisogna studiare. All'inizio avevo parlato con l'ex ministro e stava per venire, quando poi invece è stato cambiato il ministro, chiamerò quest'altro per parlare proprio di questo, per cercare di istituire a scuola questo, cioè spiegare come si utilizza la voce, la voce nel canto, la voce nel parlato, sì. Perché il canto, nella mia esperienza, aiuta a ritrovare la voce certo. In molte situazioni. Quindi chi ha problemi di parlare in pubblico, chi ha problemi di dislessie, problemi dai più apparentemente semplici a quelli più complessi. Sì, sì, perché l'impostazione della voce è il canto. Io sì. Lo dico sempre a chi vuole cominciare, dice faccio un po' di dizione, dico no, perché mi fai un po' di impostazione della voce e canto? Quello ti dà, perché la dizione si dice posto, disposto, colonna, Stefano, sì, vabbè, però ti aiuta più di tanto. Perdonami, faccio un discorso, scusa, non so se hai risposto alla tua. No, assolutamente, ma lo dico anch'io ai ragazzi, cantate in macchina, sotto la doccia, fuori dalla finestra, dove pare, al mare, tiratela fuori sta voce. Invece adesso sembra che uno è matto quando canta, cioè si incontra una persona che canta, cioè quello è matto, poveraccio, che fa? Sì. Insomma, invece no. Questo è quello che intendi tu per biorisonanza. Per psicobiorisonanza, psico-biorisonanza. Sì, l'osservazione degli effetti della voce cantata. Si scatenano delle endorfine praticamente, no? Sì, anche, sì. Tu sei sposata? Eh no, sta questa domanda. No, perché no. Voglio sapere come conquisti lui in certi momenti, se vedi che state discutendo. Guarda, tu non fai, ti rispondo così. Attacchi un pezzo. No, de... Ti posso rispondere come rispondevo sì. qualche anno fa alle mie prime classi? Si possono dire anche parolacce qui, perché siamo sdoganati dalla zanzara. So no, dicevo così, che quando ero ragazzetta dicevano che somigliavo a Liz Taylor. E mi piaceva molto, ma raccontavo, ma lei è sposata, signora, signorina, lei è sposata, figlia? Cioè... No, io vi posso dire questo, che mi dicevano che somigliavo a Liz Taylor, ero molto affascinata da questo complimento e rispondevo dicendo che ero affascinatissima da questo personaggio perché era, si era sposata 7 volte. Ecco, io ancora non sono arrivata alla 7ª. Non sei, però non sappiamo neanche se sei partita dalla prima. Sono partita, sì, sono partita. Ma non sei arrivata dalla 7ª. Non sono arrivata alla 7ª. Chiamiamo l'avvocato della signora Francesca Romano un attimo per capire, e soprattutto il commercialista della signora Romano, perché bisogna capire. Tu hai scritto un libro proprio su questo, no? Sì. Se non sbaglio, Iniziazione alla voce terapia. Mm-hmm. Bene. In realtà il titolo è il mio sottotitolo del libro, perché quella è stata una scelta commerciale. Ah, io ho azzeccato fino adesso il tuo nome e cognome praticamente. No, grazie. Vino, scherzo, dai, sto giocando. Lo so anche anch'io. Perché parliamo di cose importanti, ma sì, bisogna sempre essere leggeri. Ma io parlo sempre di leggerezza calviniana, ma è una leggerezza, superficialità andata. No, ci inchiniamo a Calvino assolutamente. No, e perché quindi sono il sottotitolo è La voce educa la mente e il corpo canta. Ma tu questo lo metti in pratica privatamente con in Italia, all'estero, dappertutto. Che bello, parlamene, cioè chi vuole con i bambini, sì. Bambini che hanno avuto, che hanno delle difficoltà di inserimento, problemi di autismo, problemi no. Sì, anche, sì, tutti. Ovviamente davvero. Poi sono seguiti anche da uno psicologo, certo. Eccetera. Tu non ti metti ovviamente al certo, posto, certo, l'hai detto, la figura lo urli ancora, la figura professionale dello psicologo e dello psicoterapeuta è un'altra. Tu puoi soltanto essere quell'elemento in più, quella carta in più, l'asso nella manica in più che può permettere di trovare un altro sbocco. Che accelera quel processo, accelera di, quel processo. Di come possiamo dire, di trasformazione. Sì, questa è la parola che mi viene in maniera... Da quant'è che... 15-18 anni. Per cui sei scesa dal palco? Esatto. Mi è arrivato questo lavoro, non se l'avessi dovuto scegliere forse... E come è successo questo sliding doors? Che è successo? Perché a un certo punto ho perso la mia di voce. Oh. L'ascolto della mia voce. Sono stata cantante lirica. Hai perso l'ascolto per un motivo medico, per un motivo emotivo, tecnico? Emotivo, parliamo tempo emotivo. Di emozione, perdere, quindi grazie. Scusami, perdere l'ascolto? Nel senso che anche se mi applaudivano io non mi sentivo sempre stonata, non intonata. Cioè non sapevi riconoscere la tua voce? Non riconoscevo più la mia voce. Ma eri realmente stonata? Cioè stonata no, ovviamente, diseducata in quel momento, era ovviamente calata di qualcosa, la voce si era velata veramente, oppure solo l'emozione? No, solo l'aspetto emotivo e psicologico. Però usciva emotivamente, usciva sbagliata pure lì. Esatto, assolutamente. È come se io vado a fare un turno con mio amico e emotivamente... Non sto bene, devo fare un eroe, uscirà velato quell'eroe. Sì, io anche dice, no, va poco bene, tempo fa ho avuto un piccolo impiccio di carattere fisico e per un periodo di tempo ero un po' sotto tono e infatti io non riconoscevo la mia voce. Beh, impatto molto forte. Fortunatamente in quel periodo recitavo poco, dirigevo più che altro. Ma lo dicevo anche a mia moglie, io il problema non mi riconoscevo, cioè mi ascoltavo e non mi riconoscevo. Forse è un'emozione forte. Sì, sì, ecco perché i miei allievi, li voglio chiamare volutamente allievi, non pazienti. No, abbiamo detto, non c'è... Allievi, si dividono in due canali, sono gli artisti, i doppiatori, i cantanti, gli attori. Ah, per cui è dei professionisti assolutamente. E poi le persone che vogliono riconoscersi attraverso l'ascolto, il riascolto della propria voce, quindi un diventare se stessi, che è una frase che non ho detto io, ma è molto molto interessante. Riconoscersi in ogni momento. Sì. Non è male, resta qui vicino a me. Assolutamente. Rimani anche tu ancora, certo, ti va? Certo. Anche perché mi aiuti anche un po', capito? Sei spaventato? Un attimo, sì. Vabbè, perché io adesso capisci, no? Da lì si fa passare qui, direttamente. Per apri bocca... Che sei fatto? C'ho della antropologa di qua, la dottoressa che cata. Se non mi dai una mano te che sei un po' più grande, vabbè, metti dai, un po'... Dai. Grazie, ti ringrazio. Vai avanti tu, adesso ti faccio le domande della dottoressa. A tra pochissimo, Voice Anatomy. Voice Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 15:32 primi e 38 secondi. Non ho letto tantissimi messaggi, vi ringrazio, sono tanti di complimenti. Parlano di Fabrizio, ovviamente, di prima che tu arrivassi. Francesca, il suo ospite, il signor Temperini, ammirevole professionista e avvincente persona, dice la fondamentale formula per il miglior vivere: fai ciò che ti piace e farlo con amore. Ad entrambi grazie, eccetera. Anche a me hanno detto che ho una bella voce, ma non me l'ha detto la persona giusta. Sono una che, come voi, lavora davanti a un microfono, ma mi piacerebbe fare la doppiatrice e ho tanta voglia di mettermi in gioco. Mi date un'opportunità? Grazie mille, Letizia. Letizia, non dipende da noi, così. Se tu fai anche l'attrice, se lavori davanti a un microfono, ma solo come speaker, è una cosa. Doppiaggio, però, a nessuno si può chiudere una porta in faccia. Tu vai e rompi le scatole come ho fatto io dappertutto, anche al povero Temperini. Gira e fatti vedere. Ascoltarvi è semplicemente stupendo. Senza professionisti come voi, il mondo del cinema e della TV non sarebbe lo stesso. Brevissimi, grande Radio 24. Ok, ciao, grazie a tutti. Andiamo avanti insieme con Francesca. Invece c'è una telefonata. Telefonata di una testimonianza di qualcuno che ha lavorato con te o che tu hai curato in qualche modo. Non si dice la parola cura, non è terapia, un allievo. Un allieva, non lo so. Pronto? Pronto? Allieva. Sì. Allora, allieva sì. Come ti chiami? Un'allieva, mi chiamo Stefania. Un'allieva, pensavo ti chiamassi un'allieva. È bellissimo che queste sono cose, come ti chiami e da dove chiami? Queste sono le cose tipiche, no? Sei di Roma? Mi chiamo Stefania e chiamo da Francoforte, dalla Germania. Ah, Stefania da Francoforte. Va benissimo. Dici tutto, Stefania. Dici, conosci la Francesca Romano, immagino, hai avuto un'esperienza con lei. Sì, la conosco. Buon pomeriggio, Francesca. Ehi, ciao, Stefania. Bene, raccontami qual è stata questa esperienza, che abbiamo appena cominciato questo percorso della biorisonanza e come la voce canta... ragazzi, c'ho pure una frezza bianca sui capelli, ecco. Questa mena. Per cui tu la conosci bene. Psicobiorisonanza, come ti ha aiutato? Come sei arrivata alla conoscenza di Francesca, per quale motivo e come ti ha aiutato? Beh, tramite degli amici che avevano già provato la psicobiorisonanza e che avevano ottenuto degli ottimi risultati, ho contattato Francesca Romano e ho provato con lei già alcune volte, e la mia esigenza era quella di trovare più serenità nel parlare in pubblico. Lavoro che faccio, presentazioni, vi dicendo, e devo dire mi è stata di grandissima utilità. La mia professione mi porta a parlare con persone di vario genere, diciamo così, sia in riunioni, presentazioni, direttori, vi dicendo. Ma stai a Francoforte, ma dove lavori, Stefania? Immagino, non puoi dirlo. Non si può dire. Purtroppo la compagnia per cui lavoro non ho avuto il tempo tecnico di poter chiedere la possibilità, ecco, di scoprire la mia identità, però ecco la cosa importante secondo me da dire Bond. È proprio questa. Bond. Bene. Bellissimo, sei a Francoforte, parli un italiano perfetto, lavori per una grande azienda, hai a che vedere con persone di diversa tipologia, va bene. E quindi no, per dire che per me la biorisonanza è stata veramente fondamentale per trovare questa serenità. E prima ancora, diciamo così, della serenità, mi ha aiutato a scoprire me stessa attraverso la voce, cioè le possibilità che avevo, che potevo fronteggiare grazie a questo, chiamiamolo studio, diciamo così, della mia voce. Parliamo proprio la stessa lingua da questo punto di vista, anche con Fabrizio, è quello che si deve. Per cui sei d'accordo che a scuola il coaching, il teatro anche, la teatralizzazione, no? Lo psicodramma da un'altra parte, ma il teatro a scuola aiuta, non perché devi fare l'attore da grande, ma perché ti aiuta a comunicare, a stare di fronte a una platea, a stare in un gruppo, ad aiutare l'altra persona, ad appoggiare la persona, a fare un passo indietro quando l'altro fa un passo avanti, insomma, sono tante cose, soprattutto per te che sei un grande manager di Francoforte, caro Bond. Insomma, ma tu lavori sempre all'estero, per cui parli quante lingue parli? Esatto. Vai, Stefania. Per adesso 3. Mannaggia, per adesso, perché da domani forse pure 4. Infatti, ricordo, se non ricordo male, in un lavoro fatto parlavi in inglese e ti hanno detto che non era tanto quello che diceva, ma come lo diceva. Quindi è stata una grande soddisfazione. Quando sono usciti tutti dalla sala, quando sono aumentati le persone, esatto. Era come lo diceva, ma è quello, non è quello che si dice, è come si dice. Esatto. E come si fa ad arrivare lì? Di, una, proprio di uno speech, come abbiamo studiato con amico Fussi, eccetera, Diego Cosso, eccetera, è l'8% è quello che arriva, il concetto, il resto è voce e corpo, per cui esatto, è tutto esatto. Lì. Questo devo dire, l'abbinamento del contenuto, che per quanto mi riguarda rimane sempre molto importante, perché bisogna sapere anche quello che si dice, certo. Come lo espone e la coscienza con cui si passa questo messaggio. Questa è la cosa molto molto importante. Ma tu l'hai cantato il messaggio in inglese, hai cominciato con "And now the end is near", eccetera, oppure l'hai fatto parlando? E non ho una voce così bella come la sua, per cui non avrei mai potuto cantarla. Ma tu hai una bella voce, invece guarda, qui c'è un direttore di doppiaggio e attore consumato, nel senso, ha una bella voce Stefania, sì, invece. Sì, sì, vero. Assolutamente, poi canta benissimo, ma è una ragazza modesta, quindi ovviamente. Quanti anni hai? Voglio dire, tanto non ti si vede, puoi dirlo tranquillamente, sei una giovane, ma dalla voce sei giovanissima, sei giovane, 32, 33. Bellissimo. Bene, allora direi di lasciarlo lì, esatto. Tavolo senza un rilancio. Lo vedi? Esatto. Lo vedi? Allora non rilanciare, accetta. Accetto così. Chiudiamo la busta. Esatto. Accetto il complimento, ma non l'ho fatto, ho detto perché dalla vocalità si può dedurre. Certo, questo è anche il lavoro svolto, insomma, scusate se mi cito. Senti, ma Francesca, insomma, 72 anni, esatto. Ma ne dimostra molti, molti, molti. Io dico di sempre me. 82, caro Fino. Conviene. Ne hai tolti 10. Conviene, conviene. Francesca, oggi sei a riposo, immagino, lì a Francoforte non ci sono... No. Stefania, sì, scusami Francesca, non capisco perché non ci sono. Oggi a riposo e con molto piacere vi seguiamo qui, seguiamo la trasmissione. Sì, a Francoforte devo dire che vado forte davvero proprio, anche se mi chiamo Pino, però non Franco, ma no, ma siete bravi, anche perché se non hai missioni all'estero oggi poi non ce l'hai, per cui caro Bond, non c'è. Non si sa, no, insomma, che lavoro fa. Insomma, non posso sapere che lavoro fa Stefania. No, non lo può dire. Va bene Stefania, sono un impiccione. Ecco. Vedi, ammorbidisco un po' la trasmissione, certo, con un leggero gossip. Stefania, io ti ringrazio di questa bella testimonianza, perché avvalora ancora di più l'urlo che io faccio attraverso questi microfoni da circa 2 anni, dove bisognerebbe veramente dare ascolto alla propria voce e fare in modo che la gente conosca la propria voce e sappia utilizzare la propria voce. Non voglio più sentire quello, c'è il nodulo dell'insegnante. Non è possibile che l'insegnante ci abbia i noduli dell'insegnante, perché vuol dire che usa male la voce. Usando male la voce arriva male quello che spiega, e quello che spiega viene recepito male dagli alunni, che lo rideranno male, per cui è un effetto domino. O non che... lo studieranno. Esatto, perché se uno fa adesso pagina 12 Garibaldi, non dico come fa pagina 12. Ma dai, insegnerebbe che se non conosce se stesso non può risolvere quelle cose che gli consentono di non avere il nodulo quando parla ai suoi alunni. Ma soprattutto, sì, il se stesso sicuramente abbinato a una tecnica di respirazione degna, esatto, di tutto quanto. Esatto. Ma fa l'agnolo, così adesso ci discuto un po' con Francesca. Va bene, Stefania, buona vita davvero, buon, buon tutto a te e alla tua grazie famiglia, buona domenica, buon proseguimento di domenica. Allora, se non sei d'accordo che c'è anche sicuramente la base... La base psicologica c'è sicuramente, insomma, cioè, abbiamo parlato con dei professori, per cui certi limiti, certi problemi di balbuzie, di cioè, difetti, cioè, dipendono da dei problemi del passato, eccetera. Però tante cose, magari, ecco, come il nodulo, eccetera, dipende anche dal fatto che uno non sa utilizzare la propria voce. Io pur direi che dobbiamo includerli entrambi. Tutte e due. No, no, sono percorsi, due, magari. Assolutamente tutte e due, a me non, perché a me non piace la parola tecnica, perché molti cantanti, anche professionisti, vengono da me, voglio imparare la tecnica del canto. Non parlo di tecnica perché abbiamo già tutto dentro, nel senso che chiunque vuole fare la cantante lo è già, secondo me. Quindi una frase forse banale, però che quello dico... la presuppone il fatto di farmi capire come fa a risuonare la mia voce nella mia testa. Sì, imparare degli strumenti, reimparare, quindi non è imparare qualcosa, ma forse disimparare ad impedirsela, è una frase che mi piace tanto, disimparare. Sta distrutturando tutto, Francesco. Questa intenzione di doppiaggio ci fa ricominciare da capo tutta la serie. Sì, no. Anche poi esoterica. Sì, lei è un po', esatto. No, ma disimparare davvero, ormai seguiamo, sono venuti gli orientali a dirci come dobbiamo respirare, come dobbiamo cantare, mi inchino davanti agli orientali. Tale, ma noi ce l'avevamo loro, pure il canto, lo abbiamo solo canto messo nostro, da parte, esatto, e quindi riuscire a riacquistare degli strumenti per poter emettere dei suoni e poter ricominciare a parlare in maniera corretta, al di là dell'addizione, che tu sei certo, esperto, no, assolutamente, non mi permetterei mai. No, beh, quello ma sai, e poi il parlare correttamente significa conoscere la propria voce, però per esempio una trappola che abbiamo noi è che l'attore deve essere attento a non ascoltarsi. E io dico, e propongo esattamente il contrario, cioè reimparare ad ascoltarsi per poterla modulare, quindi esprimere emozioni, riuscire ad esprimere emozioni. Immagino attraverso ci sono degli la voce. Degli esercizi, no? Sì, sì, sì, sì, sì, quelli, poi vabbè, vogliamo chiamarla tecnica quella cosa lì. No, non so come dire, ho paura, non ho paura, come dai, si dai. Chiamano? Allora no, voglio specificare, sì. Tu dici ascoltarsi certo ha una valenza, ma ascoltarsi nel senso compiacersi va a diminuire il concetto artistico. No, non mi riferisco al compiacimento della propria voce, ma proprio all'ascolto, cioè ci sono tante persone che parlano, bla bla bla, ma non si ascoltano, quindi il parlare, un mero parlare per me non è comunicare. Comunicare è riuscire sì, lasciami aggiungere, anche troppe persone parlano senza esatto, ascoltare. Esatto, appunto, quindi mi riferivo a quello. Per cui, sicuramente ascoltarsi, sapere che cosa si sta dicendo e come si sta come. Dicendo. Per no? arrivare al come ci sono degli esercizi, ci C'è sono dei tecnica, movimenti, insomma, sì, sì, sì. Forza. E che sai perché Pino poi diventa una cosa automatizzata, come da noi ovviamente entriamo in sala, stai a teatro, prendi un testo, c'è un'automatizzazione della tecnica, ce l'hai, insomma, devi piangi, non è che devi. Sono un po' così frenata dalla parola tecnica perché spesso i cantanti, le persone che vogliono tecnica cantare. Tecnica equivale a freddezza per esatto, te. Esatto, interpretazione, immagino. Ma se non sai come, cosa, chi, soprattutto chi sei tu per poter trasferire al pubblico le tue, prima di tutto le tue vibrazioni, il cioè, tuo Lucio sentire. Battisti erano vibrazioni. Quindi, non c'era Belcanto perché appunto, era pure Calante. Bravissimo, cui... proprio quello. Poi canta la canzone di Battisti se ci riesci, no? Esatto, quello mi riferisco, che non è la tecnica. Da dove cominci quando c'è l'approccio con la persona che hai di fronte? Dalle vibrazioni del pianoforte. Cioè il pianoforte comunque, mettendo le mani appoggiate al pianoforte, io suono e tu senti delle vibrazioni. Certo. E spiego sempre che quella cassa di legno, da quella cassa di legno noi sentiamo sulla mano delle vibrazioni. È stato studiato che le vibrazioni... che le ossa, le vibrazioni, l'osso è un conduttore di vibrazioni e che il suono viaggia molto più velocemente nell'acqua che nell'aria. Quindi sì. Lo strumento pianoforte di legno è niente rispetto al nostro corpo che è fatto soprattutto di acqua. Quindi il suono viaggia più velocemente nell'acqua. Ecco perché questo suono nella laringe ha un potere perché viaggia nelle strutture anatomiche, nel nostro corpo, soprattutto nella colonna vertebrale. Quindi, per cui cominci da lì. Sì. Ora fermati qui un attimo, sì. Che abbiamo un altro quarto d'ora insieme. Bene. A tra poco. Ancora non c'è la pausa del GR, vero? Ma quella dopo. Benissimo, a tra pochissimo la nostra Francesca Romano e Fabrizio Temperini che mi sta trasportando come un sommo Virgilio attraverso questo mondo della voce. A tra pochissimo. Faircam Air & Ocean non conosce confini. Spedizioni aeree e marittime in tutto il mondo. Faircam.com vi presenta. Voice Anatomy. Bentornati signori, Voice Anatomy 15:46 primi. Siamo insieme ancora per un po' con Fabrizio Temperini, che io ringrazio tantissimo per la sua testimonianza e per il gioco che abbiamo portato avanti e che abbiamo messo già su Facebook, questo esercizio di stile con i suoi personaggi attraverso le cure che ha dato come medico e non solo. Al mio fianco non una dottoressa ma una dottoressa, ma semplicemente Francesca Romana, esperta di Romano, scusa, sai perché ho detto Francesca Romana? Che mia mamma si chiamava Francesca Romana. Wow, questa è la bellissima. E allora ce l'ho nel cuore. Allora prendilo come un complimento. Assolutamente. E allora Francesca Romano, che si occupa di questa psico-biorisonanza. Sì, okay. Sì, stavamo sì, parlando sì, prima delle vibrazioni che sono fondamentali. Sì, è stato il mio, come dire, il mio la partenza è stata la vibrazione della voce. Tu hai scritto un libro, mi hanno detto che ne stai scrivendo il secondo, ti scriveva adesso Fabrizio. Come si intitola esattamente il tuo primo libro? Dove si trova? Intanto? Il primo libro è Iniziazione alla voce terapia, La voce educa la mente e il corpo canta, nelle librerie dappertutto, anche online, in ebook. Non sono ebook, pratica della tecnologia perché, come sai, tu hai un sito? Io ho un sito, francescaromano.net oppure psicobiorisonanza. Ecco, allora, se volete sapere ancora qualcosa di più, approfondire un discorso con Francesca, è www.francescaromano.net oppure psicobiorisonanza. Volevo farti una domanda: sei l'unica operatrice in questo senso? Hai delle colleghe? Perché io penso sempre, avendo un figlio piccolo, penso sempre appunto come sarebbe bello instradare i bambini al canto, proprio come aspetto ludico, liberatorio, anche forse il mio è piccolo, però anche per vincere i problemi del bullismo, di tutte queste cose qua, no? Sì, sì, sì, sì. Ho avuto una... lavoro con tanti bambini, ma ne ho una che mi è rimasta nel cuore perché adesso non è più a Roma, si è trasferita e era nata con una difficoltà nel linguaggio, perché un caso di epilessia, adesso non mi soffermo su questa faccenda clinica, ma non riusciva a parlare, aveva 5 anni, quindi doveva andare a scuola, non si capiva quando parlava, sono riuscita a parlare assolutamente un altro linguaggio oltre al canto. Io parlavo con lei cantando o ascoltando i suoi suoni. E il giorno in cui mi ha lasciato, nel senso che è partita con la mamma e si è trasferita, e abbiamo lavorato 2 anni, quindi ha avuto grandi giovamenti a tutto questo lavoro, eccetera. E, l'ultimo giorno arriva a casa mia, l'ho ricevuta a casa, in silenzio prende la chitarra, lei che non parlava, nel senso che pochi la capivano, comincia a prendere la mia chitarra e si mette a suonare e a cantare Grazie a Francesca. Beh, proprio così. Sono emozioni che io non riesco Ti è mai capitato, non so, di avere a che fare con anoressia o bulimia? Sì, una ragazza francese che veniva da Lione in 9 mesi, non ho potuto raccontare questa storia nel libro perché è capitata subito dopo, ma è stata una storia molto intensa, perché in 9 mesi, come racconto nel libro, è il periodo giusto, sono i 9 mesi, forse un autoparto attraverso la propria voce. In 9 mesi ha superato completamente il suo stato di anoressico, perché ha ricominciato è una ragazza bellissima, ha ricominciato a riprendere peso, ad avere un migliore rapporto con se stessa, a superare i conflitti con la propria madre e a mettersi a lavorare. È a 22 Beh, anni. Fantastico, brava. Poi noi siamo il paese del bel canto, quindi assolutamente. Cantiamo. E l'ultimissima situazione che mi trovo ad affrontare, e mi piacerebbe tanto avere confrontarmi con un neurologo o con i neurologi, perché mi sto occupando di una persona di Cosenza, io sono nata a Cosenza. Che... C'è una persona al telefono, mi diceva. Ah. Allora, eccoci. Pronto? Pronto. Eccoci, buonasera, buona domenica. Come ti chiami e da dove chiami? Giovanna è da Cosenza. Si parlava della Calabria. Io sono di origine, poi lì il nonno era capostazione a Sbarre Centrali a Reggio Calabria, per cui sono... Mia mamma è di Reggio Calabria. Eccolo, quindi... Ma credo che veniamo un po' tutti da quelle parti. Infatti, siamo tutti del nord. Sì, sì. Allora, dici tutto, mia amica mia. Qual è la tua testimonianza in proposito? Una vita abbastanza particolare, perché molta attività lavorativa, famiglia, doverosità, senso del dovere portato all'ennesima potenza e incapacità di vedere quella che sono, di vivere e relazionarmi normalmente con gli altri. Problemi anche di bulimia, quindi una serie di cose, e da un bel po' di tempo, da un anno e più, che ho cominciato a lavorare, a seguire, lavorare tra virgolette, un altro tipo di lavoro, è cambiata radicalmente la mia vita. Riesco a ritagliarmi degli spazi, a respirare, perché prima vivevo in apnea, e a godere della luce, dei colori della natura, dei sapori, insomma una vita radicalmente diversa. Grazie a Francesca. Ah, ecco, a questo volevo arrivare, perché io ti stavo ascoltando non sapendo e sono molto contento. Sono testimonianze naturali, ovviamente non sono forzature, anche perché qui anche no. Quando abbiamo fatto la magia per radio dell'altra settimana, sembra una follia come fare lezioni di mimo per radio. Beh, ma solo da te posso magia per radio, tutto con la voce, hanno chiamato delle persone e oggettivamente sono riusciti tutti gli esperimenti e non c'erano persone. All'inizio ho chiamato qualcuno, dico beh, chiamo qualcuno se casomai dovessi vedere le brutte eccetera. Però no, non mi era piaciuta neanche dall'inizio l'idea e ha funzionato. Ecco, anche questa cosa si sente poi dalla voce, certo. Si riconosce, ecco, la sincerità di una persona. Questo le volevo dire. Si riconosce. La si voce riconosce. Mia, mi scusi, tradisce proprio l'emozione e quello che dico lo dico col cuore. Non c'è nulla di tattica o di creato. No, ma si evince, è vero Fabrizio? Sì, assolutamente. E poi l'unica cosa che stai sbagliando è darmi del lei, solo questo, l'errore che posso stai facendo. Darti del tu? Devi, assolutamente. Beh, vabbè, a me io sono un po'... Da calabrese. Sì, ma è uguale, pure da veronesi. Non il professore, ovviamente, che non c'è più, ma insomma, un grande personaggio. Insomma, grazie a questa esperienza, dove vi siete incontrati? Come hai trovato Francesca? Caso non esiste. Allora, una mia amica che già conosceva Francesca e la stava seguendo da anni, mi ha detto ad un certo punto, ho detto, ma perché tu non avevo parlato della mia situazione assolutamente, forse i miei occhi e la mia voce tradisce più delle parole. E mi ha dato il numero di Francesca, l'ho contattata, sono andata da lei e da lì, prima molto titubante, sono andata un periodo e poi sono stata latitante per un periodo lunghissimo e poi ho ripreso e da allora i cambiamenti sono... Vabbè, non devo essere io a dirlo. Vabbè, però è giusto, è una tua testimonianza. Poi mi hai raccontato una serie di problemi, alcuni veramente importanti, altri ma dovuti al fatto di... No, mamma mia, qual era la cosa che andava bene? Qual era, tesoro? No, niente. Ha risolto tutto, Francesca, va bene. Un attimo, la cosa che andava bene era il lavoro, e esatto. Quello continua ad andare bene. Ah, meno male, pensavo che adesso l'unica cosa andava male era il lavoro. Eri così bella, ormai ballavi, cantavi, mangiavi serenamente, ma non lavoravi più. Invece no. Canti, balli e reciti, ma lavori ancora. Ecco, questo. Ascolta, allora lavoro molto meglio e ho tirato fuori tutta la passione, trasmettendo anche le emozioni e il desiderio di perché faccio di fare una cosa di più. Particolare. Che, senti, sì, almeno tu mi vuoi dire che lavoro fai? Oppure un gruppo di servizi segreti? Perché chiunque allora, sta chiamando. Io non lavoro nella CIA. Ah, no, finalmente qualcuno che lavora. Allora, posso rivelare tutto, ma la mia voce non tradisce questo? No, io sono bravo per intuire un po' la programmazione allora, neurolinguistica, ma non a questi livelli. Allora, spiego, insegno in università. Ah, ok. Quindi, bene, che cosa insegni all'università? Adesso però mi sembra che sei molto, molto curioso. Ma mi piace conoscere la persona che ho di fronte, io sempre, anche quando facevo i quiz, la persona che ho di fronte si rispondeva doveva vincere o perdere, ma io ci tengo che si sappia tridimensionalmente la persona che ho di fronte, soprattutto per radio poi. Cosa insegni? Letteratura? Ci sei quasi, però non vado oltre. Dai, un minimo di mistero deve rimanere. Ho capito, ma tu chi frega? È una sede, che cos'è? Diritto. Diritto internazionale. Va bene, ti dobbiamo salutare, amica mia, perché stiamo andando nella pausa, quella ferrea, quella che c'è il GR. Per cui ti ringrazio, sono molto felice che la tua vita sta andando in direzioni più belle. Grazie sì, di questa testimonianza. Vorrei poi conoscervi perché è troppo bello, questo momento è stato bellissimo. Non so, lo dice anche mia moglie. è giusto così. Va bene. A prestissimo, siamo a Roma, Piazza dell'Indipendenza 23BC. Tu resta ancora con noi un blocco, cara Francesca Romana. Grazie. Il mio amico, se vuole, può rimanere un quarto d'ora e salutare dopo, oppure salutare adesso, come vuoi tu. Va bene, rimango perché mi piace stare qua. E allora, tra pochissimo, i nostri amici e il nuovo ospite che verrà tra poco. A tra pochissimo. Voice Anatomy. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, container, con Massimo De Donato. Il segnale orario vi è offerto da... Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. I 100 secondi di Radio 24 Il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. Voice Anatomy. Eccoci, sto sistemando il volume al mio amico. Vabbè, diretta, dai. 16:07, 12 secondi, compagnia sempre dell'amico Fabrizio Temperini, che ci ha regalato parecchi momenti. Adesso mi sta aiutando ad intervistare Francesca Romano. Grazie. Soprattutto per questo ultimo momento di psico-biorisonanza. Abbiamo avuto delle bellissime testimonianze e mi ha raggiunto un altro grande amico, ma soprattutto un grande professionista, un attore veramente a tutto tondo, che è Paolo Triestino. Ciao Paolo. Ciao Pino. Ciao a tutti. Eccolo qui. Paolo, parleremo con lui compiutamente tra poco, ma ci tenevo che entrasse in questa osmosi radiofonica. Allora, adesso Mauro Meconi mi ha detto nell'interfono una piccola clip di un momento di 10 secondi di un film che ha fatto Paolo Triestino, per capire di chi si tratta, di cosa ha fatto, e poi voi dovete mandarmi un sms al 349-238-6666 di che film si tratta e chi era l'attore protagonista. Vai! Santa Marinella, io a casa dei miei suoceri me lo so fatto il viaggio di nozze... Io, ecco, questo è Paolo Triestino in un piccolo momento di una parte più lunga di un film con Carlo Verdone, diciamo, no? Sì, era Viaggi di nozze. Viaggi di nozze. Tu hai lavorato parecchio con Carlo. Sì, ne ho fatti tre, due volte il fratello cornuto, una volta un cognato molto bastardo. Sì, devo dire che questo... Interessante. Beh, è la tua nemesi, perché con Lavia fai brevemente settantenni fra Don Carlos, Masnadieri e quant'altro hai fatto, ma questo ne vale lungamente, almeno con Carlo ti diverti un po', dai. Sì, sono stati tre film, tre esperienze bellissime. E poi queste battute ti seguono, sai, ancora oggi a distanza di tanti anni. Com'era questa? Ti passano, ti fermano per strada, oppure senti da una macchina improvvisamente: a Santa Marinella, io a casa ne mi socera. E me lo dicono tanti. Come un'altra bella era le chiappe chiacchierate, che il Gallo Cedrone. Gallo Cedrone. Sì, perché papà c'aveva le chiappe chiacchierate. Però tu questo lo puoi fare, perché alterni Shakespeare e Schiller, e questo si al può grande fare. Perdone. Si può fare, tutto grande, tutto grande. Francesca, abbiamo un'altra testimonianza prima di salutarci. Allora, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno. Ciao. A te. Con chi parlo? Ciao. Ehi là! Lei già canta, già si sente che è guarita da tempo. Vero, vero. Cara Erika, da dove ci chiami, Erika? Siamo da Roma. Da Roma. Che cosa, sì. Che lavoro fai, Erika? Si può dire tu, anche tu nei servizi? Sì, no, perché? No, allora, che non so, perché i precedenti... Io faccio l'attrice. Oh. E dove stai, dove stai lavorando in questo momento? Ho girato delle serie per la Rai, anche da protagonista. Adesso è un periodo un po' di attesa, come si sa, mica è un lavoro certo. Ma amore, però se sarei gentile con me Temperini, una cosa la trovo. Ma che dire? Ma non è così! Ma smettila, Fabrizio! Scusate un attimo, Erika è bellissima, è una ragazza bellissima. Ma allora rivale! E non fa solo l'attrice, ma fa la pianista e la compositrice, ci tengo a dirlo, Erika. Bene. Quanti anni hai, Erika? Sì. Manca solo questo a questo punto per accettare. 29. Comincia a essere grande, perché dopo i 30 noi non accettiamo più nulla. Vabbè. Erika, permetteci di giocare un attimo, ovviamente. Com'è stato il tuo percorso con Francesca? Perché ti sento bella, eri già così o sei diventata così? No, diciamo che sono sempre stata. Ho sempre cantato, ecco. E forse proprio questo mi ha portato a conoscere Francesca, il canto. E grazie a il suo fare, grazie alla sua, mi verrebbe da dire, magia, e adesso oltre al canto sto conoscendo anche me, che insomma non è poco, ecco, anche perché come hai detto te prima, i 30 è un'età importante. Sì, sì, svolta, chi se lo ricorda più per una donna, no? E quindi io adesso grazie a lei sto capendo dove sto andando, è come se stesse ripulendo la mia bussola. Ma soprattutto sei più serena, perché poi il nostro lavoro è quello, che stiamo alla ricerca sempre, come diceva qualcuno, del tempo perduto, e ogni volta depressioni. Aspetta che Fabrizio vuole dirti una cosa. Sì, voglio capire una cosa, perché Francesca, io ce l'ho qui davanti, una persona carina, ma è una specie di sciamana, allora, sì, questo sì. È una sciamana, sì, della voce. Sì, è così, è così. Beh. Vabbè, io non si può descrivere, cioè non lo so, a me ha fatto tanto bene, continuo a farlo, a farne. Questo è bello. Non lo so, che bisogna fare. Hai trovato anche persone l'anima gemella? Hai trovato anche l'anima gemella nel frattempo, perché la positività, certo, chiama poi sicuramente, sì, quello. Chi lo sa? Non lo so. Arriverà. Non lo so, sono in cammino anche verso quello. Vabbè, tu canta, bene. Arriverà, canta, canta. Piazza dell'Indipendenza, 23, incamminate, qualcosa trovi qui in uscita. No, siamo molto contenti, mi fa piacere, io ho giocato un po' più con te perché dalla voce insomma qualcosa ci capisco, riesco a capire che sei una persona serena, carina, realizzata, che sta giocando, come si dice, come si dovrebbe dire anche di noi attori, visto che si chiamano i player, no? Quelli che fanno questo mestiere, o i jouer in Francia, bisogna giocare un po' con la vita, l'autoironia è quella che ci salverà in qualche modo, avere il coraggio. Come gioca Paolo con la propria carriera, dal gioco con Carlo Verdone al gioco più serioso a un teatro come l'Eliseo, e poi la vita che è quella cosa poi più importante, perché è quella che ti permette poi fuori di qui di incontrare un amico come Fabrizio e abbracciarsi veramente con grande affetto con Paolo. A Francesca non la conoscevo, ci abbracceremo pure con assolutamente lei, però devo cantare quando ti incontro, esatto, questo non riesco, se no assolutamente. Carissima, c'hai qualcosa in vista? Allora, adesso sto scrivendo, sto diplomando in composizione. Pure. Oltre a pianoforte, sto facendo composizione perché mi piacerebbe scrivere colonne sonore. Ah. E poi sto scrivendo una sceneggiatura insieme a un amico molto bravo, anche lui sceneggiatore. Insomma, sempre nel campo artistico. Vabbè, certo. Tu calcoli, io sono il più grande collezionista al mondo di colonne sonore. Mi dico un grande vanto, perché ne ho circa 14.000. Wow. Loro, io non uso mai la parola io in trasmissione, ma se mi tocchi la colonna sonora, io divento pazzo. Sono veramente anche... La colonna sonora è la colonna vertebrale, quindi caro, non potrei... Certo, la colonna sonora è la colonna vertebrale. Bella questa cosa. Ecco, sì, ci piace tanto. C'è la risonanza migliore, esatto, da lì, dal coccige fino alla cervicale. Fino all'Atlante, che è l'ultima vertebra. Addio, l'Atlante, l'ultima vertebra. Che bello il titolo, l'Atlante, l'ultima vertebra, stasera alle 20:40. Esatto, il va nuovo bene. Sceneggiato di Erika. Montresor, grazie. Allora, grazie a voi. Ciao. Facci una cantata, salutaci con una canzoncina. Eccola, l'Iller e l'Allere. Ciao. Olli Hobby. Grazie. Ciao tesoro, ciao. Buona vita, grazie. Cara Francesca, grazie. Carabino. Tanto ci rivedremo. Speriamo. Sì, questo è stato un approccio, uno start-up, come si dice in comunicazione. Grazie. E poi vediamo, verremo tutti da te e canteremo tutti. Assolutamente. Ma bisogna cantare. Saremo tutti un po' più felici. Assolutamente. Più sereno. Sì. Ah sì, guarda, io tanto vivo in fase maniacale da quando sono nato, per cui sono sempre entusiasta di quello che mi capita. Caro Temperini. Caro, grazie. Grazie a lei. No, ti ringrazio. No, avremo modo di incontrarci fra poco, non so quando arriverà quella nostra situazione. Mi dai una ricetta, una cosa, non te ne puoi andare così? Perché all'inizio avendo fatto Clune in AR eccetera, io ho fatto leggere le ricette. Vabbè, Paolo, preparati perché ti fa fare delle cose. No, Paolino però fa un monologo tratto dal Don Carlos lungo 3 minuti, guarda, 3 ore. Finisco con questa frase. Dai. Non è... Ti mettono la musica, se non parte Person of Interest. È Person of Interest, no, no, già, questo AR. È AR, scusate. Non è invece dimostrata l'utilità dei mucolitici o degli espettoranti. Io direi che un saluto più bello di questo non poteva fare. Ciao Pino, sei un grande. Ciao Temperini, Fabrizio, grazie. Tutti. Francesca Romano in bocca al lupo. Francesca Romano.net, psico. Biorisonanza. Non me lo suggerite. Francesca Romano. Francesca Romano, no, Romana. Sì. Ciao. Ciao, ciao, ciao. A tra poco, voi sanatomi con Paolo Triestino. Sanatomi. Siamo qui. Paolo sta scambiando effusioni con il collega Fabrizio Temperini. Io ringrazio ovviamente Paolo quando mi ha chiamato. Io, che bello, ero veramente contento. Dice: posso venire nella mia radio preferita? Ma tu devi venire perché sei il mio attore preferito, il mio punto di riferimento. Perché Paolo, dovete sapere, lo devo dire, perché quando io cominciai a fare questo mestiere non, Avevo 18 anni e l'ho conosciuto che era all'Eliseo con Gabriele Lavia. Gli chiesi qualche consiglio e lui mi disse: vieni a vedere le prove, ti nascondi, ti faccio entrare da dietro. Insomma, io mi sono visto centinaia di prove dei suoi spettacoli e lì ho cominciato, ho imparato rubando in qualche modo. Per cui per me Paolo è rimasto sempre un punto di riferimento, perché poi l'ho visto declinarsi in mille occasioni diverse. In mille situazioni. Tu nasci il primo febbraio del 59, stesso anno mio. Sì, sì. Io, 30 agosto, vabbè, poro verginello io. Sei attore di teatro, cinema e televisione. Allora, io voglio parlare però di te, perché non lo so. Chi era Paolo prima di diventare un attore? E quando hai intuito di poter diventare un attore, Paolo? Bella domanda. Prima io volevo fare tutt'altro, volevo fare... E poi sei anche un doppiatore, ma di questo ne parleremo. Il giornalista sportivo volevo fare. No. Io ero appassionatissimo soprattutto di atletica leggera. Allora, dopo ti facciamo parlare con Capuano, dove ci colleghiamo con tutti i convocati alla trasmissione dopo. Che bello. Anzi, senti se c'è subito che vuole... Almeno vi facciamo sentire come dovrebbe essere la voce di un vero commentatore sportivo. Va bene, Paolo. Guarda, io mi ricordo che a 10-11 anni seguivo i triangolari di atletica leggera, all'epoca erano così, Italia, sì, URSS, Spagna, URSS, e con la macchina da scrivere di mia mamma, l'Olivetti. Con l'Olivetti, io scrivevo gli articoli già allora, quindi io per lungo tempo, quando ho cominciato a fare l'attore, scrittura, giornalista, sì, non... Sì, volevo fare il giornalista e poi il commentatore cioè, per lungo tempo c'è stato un momento della mia carriera, soprattutto negli anni 2000, in cui stava per succedere qualcosa di molto importante, serie che avevano gran successo, vabbè adesso è inutile star lì, ma uno dei miei più grandi desiderata era quello di dire: se divento famoso veramente. In quegli anni mi pare c'era Zingaretti che era a commentare i mondiali di calcio in Germania come attore, sì, ma che andava lì ospite, certo. Ma no, io voglio diventare famoso perché voglio che mi chiamino alle Olimpiadi a commentare le Olimpiadi di atletica leggera. Io pure voglio diventare famoso come attore per giocare a nazionale attore, perché giocavo a pallone, sì, però io avevo già 40 anni, cioè non era un sogno di un quindicenne, per dirti, questa mia anima, per cui ce l'hai ancora dentro questa tantissimo cosa. Io sarei ogni atletica leggera mi piace tantissimo, però ovviamente anche il calcio. Ultimamente vado spesso a qualche trasmissione televisiva sul calcio, radio, TV locali, sì, però mi diverte, cioè, tantissimo. Però è metadone per te quello, sì, per me è Disneyland, ma come per me oggi essere qua, cioè io radio, intonata per quanto riguarda stare, il tuo lavoro. Radio 24, cioè essere a Radio 24, insomma, mi è capitato delle volte andare ospite a Hollywood Party, mm-hmm. È un'altra di quelle trasmissioni, sì, che quando vado a correre a Villa Paffini la metto dentro ed è un godimento assoluto, com'è un godimento assoluto questa trasmissione e anche altre di Radio 24, ce ne sono un paio, sì, che non sopporto proprio, però non si dice chi è, Cruciani, e poi andiamo avanti. Ma io... E allora attenzione, ti daremo una possibilità. Pronto? Che pronto? Possibilità vuoi dare? Capuano! Eccomi qua! Allora, grande. Qui c'è il mio amico Paolo Triestino, non si fanno cose, raccomandazioni, eccetera. Paolo Triestino, grandissimo attore di A Tutto Tondo, il suo sogno è sempre stato quello di fare il tuo lavoro. Ora, il tuo sogno è stato quello di fare il lavoro di Triestino o no? No, assolutamente no. No, tu volevi fare questo? No, io avrei voluto fare tante altre cose, il pizzaiolo, l'astronauta. Ma perché scherzi. Non l'hai fatto? T'ho anticipato, sono tutto Triestino di me. Capuano, possiamo dare una possibilità di intervistare Paolo Triestino in Tutti i convocati? Lui è... No, io sono un grande tifoso della Roma, se posso grande dire, tifoso un Roma, esperto allora... di atletica leggera. No, ci fermiamo al grande tifoso della Roma. Perché dai, atletica ci scriviamo un numero. Audience zero, sì. Certo. Chiudono, cambiano tutti i canali. Atletica cioè... è un meraviglioso sport, però esatto. Radiofonicamente non funziona. No? No, non funziona davvero, ma durante le Olimpiadi siamo purtroppo in Italia, ma certo durante le Olimpiadi è sì, la regina sì. Però tu dici il lancio del martello commentato, il lancio del disco, a meno che vuoi non canti vuoi quel mettere disco. L'espulsione di Acqua con il lancio del martello fa esatto, discutere no. Più il lancio del martello se lo tiri addosso ad Acqua. Certo, hai certo. Capito. Anzi, a proposito, c'è stato un paio di giorni fa un giavellottista che per poco non becca un giudice di linea. Sì, sì, no, un giudice... cameraman. Era un cameraman. Beh, perché sì, giudice Santa Misera sarebbe un suicida. Ma è mai successo, Capuano? Purtroppo sì. Ma tra l'altro il lancio del giavellotto ha cambiato spesso il modo il di peso, costruire, no? L'attrezzo, certo. la distribuzione del peso, proprio perché più si allungava il record, più si allungava la gettata, più si rendeva necessario accorciarla per questioni di sicurezza. Se no bisognava uscire dagli stadi, no, mangiare qualcuno all'altra parte. No, ma quando arrivi a oltre 100 metri, ma come fai? È impossibile, no? È vero. Purtroppo è capitato. Potremmo far commentare a lui come è andato il motociclismo, il MotoGP, che io non so niente, però non lo sa neanche no, il mio no, amico. È arrivato decimo, sì, è stato un calvario. Fammela commentare, non dai tu gli aggettivi, vai. Capuano, se no è finita, com'è andata oggi? È stato un calvario vero, perché hanno sbagliato le gomme, lui era, niente, sia lui che Vinales hanno fatto veramente grande fatica. Per fortuna ci si sono messi Lorenzo, terzo sul podio per la prima volta in stagione col Ducati, ha vinto Petrosa che ha fatto la gara magica, la gara perfetta, ha fatto pole, giro per tutto quanto, straordinario. Per cui meritata, insomma. Ma strameritata, però le Honda sono andate con un altro passo oggi, veramente. E soprattutto, cosa che ci ha fatto un po' rosicare, 3 spagnoli ai primi 3 posti. Eh sì, quando dai Italia-Spagna c'è un po' sta rosicata. Sì. C'è sempre questo combattimento. Italia-Francia, Italia-Spagna, non so qual è la più in antitesi con noi. Forse Italia-Spagna. Italia-Spagna. Sì. C'erano sottratte da sotto il naso. Però c'è un periodo che la Spagna è Capuano, vince tutto, pure a briscole 3-7. Mi devono spiegare come fanno a un certo punto. Ma non voglio dire niente. Siamo Radio 24, Radio Confindustria. Non voglio intercorrere. Chiudono la radio, mi cacciano via me a te e Triestino pure, che non c'entra niente. Amico mio, ci colleghiamo dopo per i risultati? Sì. Tanto ti dico che la Lazio è partita combattuta. Sì, eh? Come finita? 7-1. No, non è finita. Sono 5-1. Ma che è diventata sta squadra? Non me lo dire a me, Pino. No, lo so, c'hai ragione, è vero, non volevo. Però adesso sono felicissimo, sai perché? Per Inzaghi, per Filippino. Simone, scusate, Filippo è il fratello. Inzaghino è sopravvissuto a 5 possibili allenatori prima di lui. Sì. E poi con grande modestia, si sta sempre al suo posto. Esatto. Infatti, non deborda mai. Andando via sicuramente tutti, vedrai. Va bene, Capuano, ci sentiamo poco dopo alla fine. Grazie di questo collegamento, sei sempre molto carino. Nel senso professionale del termine, ovviamente. Ciao, è stato un gran piacere conoscerti. Anche per me, ciao. Mi piaceva molto. Paolo, questa cosa. Mi piace, Radio 24 è veramente una bella famiglia, nel senso che c'è un'osmosi fra i programmi, fra le persone. Hanno voluto fortemente anche arricchire il sabato, la domenica, renderla fruibile. Questo per noi è una bella fatica, la domenica, però insomma ci guarda, sta. Ogni volta che tiro fuori una novità, sapete, ho sentito i miei figli, facevano uno perché sta in Francia, la mia figlia invece Cecilia, che saluta, anche Michele saluto fino a Digione. Quanti ce ne hai? Due. Michele e Cecilia mi dicono sempre, io l'ho sentita su Radio 24, lo sappiamo. Ho sentito su Radio 24, capito? Ma è una talk dove si parla. No, c'è tempo, bellissimo. La musica è bella, per carità, però è bello bellissimo anche sentire, ascoltare. Allora, diciamo, tu vorrei fare il commentatore sportivo, il giornalista. Poi che è successo? Tua madre faceva parte di questo mondo? Sì, mia mamma non proprio. Mia mamma recitava in una filodrammatica in parrocchia. Andai a vedere un giorno. Che sono i più grandi professionisti del mondo, secondo me. Sì, spesso sì. Io facevo le scuole medie, andai a trovare mia mamma. Però non mi scattò questo sacro fuoco, insomma. Diciamo che la prima volta che ho capito che forse c'era qualcosa che si avvicinava era al liceo mi chiesero di leggere. A tutti, a turno, no? Che ci chiedevano di leggere i Promessi Sposi. Mi ricordo che cominciai a leggere ad alta voce, io come tutti gli altri, capitolo o qualcosa del genere, e dovevo, adesso non mi ricordo chi a un certo punto gridava, Griso! Io gridai più o meno in questo modo, tutti quanti scoppiarono a ridere. E il professore dice, bravissimo. Hai dato un'emozione, Un'emozione, sì, ridevano tutti. Io ho detto, oddio, che ho fatto? Perché esatto. Me l'ho lasciato trasportare? Di lì, dopo pochi giorni, degli amici miei che mettevano in scena un testo di grande attualità, la Passione di Cristo, certo. Un testo contemporaneo, voglio dire. No? Certo. Di ricerca, che ti hanno fatto fare? Mi hanno fatto fare Caifa. E avevo... Eri già col vocione, tu. Sì, sì. Sì, sì, ho già il volo. Avevo 16 anni, quello è stato il mio debutto. A 15-16 anni facevo Caifa, barba finta, e lì una cosa molto divertente, c'era quello che faceva, adesso scusami, mi confondo, chi è quello che tradisce? Barabba, no, no lui non forse tradisce, Giuda. Era Giuda, però Barabba, chi volete libero, c'è, libera, sì, c'è l'altro allora, ladrone, esatto. Insomma. Allora c'era Barabba che a un certo punto aveva la lisca, si chiama Maurizio questo ragazzo, aveva la lisca, quindi diceva a porto lì, no? Allora tutti quanti a dirgli, è vero che eravamo in un ambito parrocchiale, certo, abbiamo detto, senti, forse è meglio che cambi parola. Esatto. Allora lui il giorno dopo ho trovato, invece di Apostoli dirò di Chiepoli. Che aveva Pomonenci, quella con, tipo quella di Bisio sull'era glaciale. Apostoli. Di Chiepoli. Era, insomma, fu molto. E da lì poi, vabbè, insomma, poi è partita la passione. Però sei stato segnato da quella barba a 17 anni. Sì, sì, sì. Da lì. E dopo? E dopo cioè, ci fu un'inserzione, anni. Un'inserzione, mia sorella Alessia, guarda che cercano su un giornale, pensa tu, cercasi aspiranti attori, mi presentai, che era la di storia, una cosa del genere, poi invece mi presentai, vinsi questo provino, fece il provino, era Jan Palach, la storia di Jan Palach, un ragazzo che si bruciò davanti ai carri armati a Praga nel 68, nella primavera, e da lì poi provai a fare l'esame all'Accademia, ma non mi presero. Bene. E io per lunghi anni, ogni volta che vedevo un attore dell'Accademia, abbassavo lo sguardo perché mi sentivo un minus habens, cioè loro erano più bravi e più fighi. Poi in realtà qualche con tempo fa rispetto, sono andato a vedere chi quell'anno ha fatto, che poi ha passato l'esame, hanno fatto gli attori di quel gruppo lì, credo solo uno faccia l'attore, gli altri hanno tutti smesso. Quindi a volte no, ma a volte come il destino, no? Ci sono annate buone, annate sì, sono annate che stanno in classe insieme a Albertazzi, Gasman, Carmelo Bene, certo, eccetera. No, e poi no, poi il carattere, sì. E da lì e poi pian piano, come, sì, come hai ricordato tu, ho cominciato succede a lavorare con Lavi, a 7 spettacoli con lui e poi Orsini. Qual poi è stato il primo spettacolo con Gabriele? Non i Masnadieri, L'Amleto. Prima dei Masnadieri? Sì, sì, nel 1981. Sì, sì. Quando ancora i provini erano oceanici, cioè furono 5 giorni di provini, mi credo 600-700 sì, attori. Sì, poi Gabriele non era uno fare, era lui che stava sul pezzo. Ma sì, Gabriele mi fermò subito, mi fece parlare, io dissi due parole e mi dice basta, va bene così. Beh. E io ho detto scusa. Si sono messi tutti a ridere, sì, come messi sposi. Esatto, un griso. E poi in realtà poi tutta, poi alla fine mi presero e da lì era, insomma, è cominciata la tua carriera. La mia carriera che poi vabbè dai è passata cinema, televisione e quant'altro. E adesso andiamo avanti a ripercorrere. Tra pochissimo Voice Anatomy con il mio amico Paolo Triestina, tra poco. Voice Anatomy. Bentornati signori miei, Voice Anatomy, 16:32 e 45 secondi, non ho letto tanti messaggi che, di complimenti, eccetera, eccetera, anche saluto a Paolo Triestino, anche loro sanno tutti i tuoi tormentoni. Un'altra dice, a differenza di Triestino, io sono appassionato di atlete leggere, soprattutto russe, motivo per cui ho tanto sofferto la scorsa estate. Se mi fa ridere, quelli mi fanno ridere li leggo volentieri. Va bene, insomma, tante cose molto belle. Io voglio ricordare invece una cosa importante, che tu sei in scena al Teatro Vittoria di Roma dal 10 al 14 maggio. Beh. Eccolo qua. Eppur mi sono scordato di me. Mi piace molto. E la copertina sei tu che corri nel fango, come la copertina famosa del grande Lucio Battisti. Eppur mi sono scordato di me, che è un monologo di Gianni Clemente, che è un grandissimo autore, con te, ed è pieno di persone intorno, cioè incredibile, sei solo in scena ma 20 persone intorno, sì, sì, questa è la gente è che non lo capisce, no? Sì, che sì. Il teatro poi è come il delitto, non paga, perché giustamente, ed è una bella avventura che tu hai già fatto in tournée, non sei neofita, non è una prima nazionale. No, ma la replica qui. Lo spettacolo ha più di 50 repliche, però approdo al Teatro Vittoria, insomma. Teatro Vittoria è stato bellissimo nel cuore testaccio. Esatto, da mercoledì prossimo fino a domenica, ed è un testo che Gianni ha avuto una gestazione piuttosto lunga, di circa un anno, è stato un continuo collaborare con Gianni Clementi. Sì, anche perché quindi sono si molto parla di quello che eravamo e ciò che siamo, per cui è in evoluzione. Ecco. Sta scritto? Eccolo qua. Eccolo là. Tutti, mi metti una musica di sottofondo, grazie. Grazie. Tutti abbiamo una colonna musicale della nostra vita. Antonio, un 55enne, ci propone con ironia e la passione la sua. Ma com'è che si è scordato di sé? E Francesca? È ancora lei? O Antonio si sta sbagliando? Gianni Clemente, scrive per Paolo Triestino un ritratto divertente, originale e commovente, la cui storia incontra la storia, accompagnata dalla musica di Lucio Battisti. Eppur mi sono scordato di me. Sembrava un film d'amore, comunque va bene. Al Teatro Vittoria di Roma, che bello. Mi racconti un po' di questo, perché mi piacciono le cose, guarda, che riguardano il passato e il presente, mi piacciono da morire. Guarda, lo spunto è veramente nato per caso. A un certo punto con Gianni ci siamo guardati e abbiamo detto: scusa, ma se tu, Gianni, o io Paolo, mi incontrassi col mio Paolo di quando avevo 18 anni, andassimo a mangiare una pizza insieme, cioè, io e con me stesso. Sarà una bella seduta, eh? Allora, che cosa accadrebbe? Quel ragazzo lì, con i ricci, sorridente, che guardava in un certo modo con i sogni verso l'avvenire, come si relazionerebbe oggi con quello che io sono diventato? Mi riconoscerebbe, si riconoscerebbe in me? Ecco, questo è stato lo spunto. Su quello che eravamo e su ciò che siamo diventati, ma non è assolutamente... Non è lacrimevole, né nostalgico, né no, assolutamente. Assolutamente, quella bella. No, è quella, proprio l'interrogarsi, il domandarsi che quanto di quello che volevamo essere oggi siamo diventati. E questo viene ampliato proprio per osmosi, questa parola bellissima che hai usato tu, a tutto ciò che ci circonda. Che poi tutti si riconoscono in un'avventura del genere, chi viene a teatro, insomma. Tutti, per cui si passa, che so, dai, penso a te. Chi non vorrebbe rincontrare se stesso 18 certo, anni. Guardarsi veramente... e riconoscersi in qualche modo. Ma siamo noi, sì. Io in parte credo sì, a parte... Sì, c'è... Ah, vediamo un po' chi c'è al telefono, vediamo un po', aspetta un attimo. Pronto? Pronto? Sì, pronto. Con chi parlo? Sono Gianni Clemente. Ah, lei è un giovane autore? Il giovane autore. Senta, qui ho una persona che dice che sta lavorando con un suo testo, io non ci ho creduto e l'ho chiamata subito, Gianni. Si chiama Triestino Paolo. Dice che sta al Teatro Vittoria dal 10 al 14 maggio con Eppur mi sono scordato di me. Le ha rubato il testo? Sicuramente sì, io questo Triestino... Non lo conosco, lei conosce Trieste, conosce chi abita a Trieste, ma non... Esatto, un abitante di Trieste. Un abitante di Trieste. Ciao Gianni, come stai? Ciao. Oh, bene. Il grande Gianni non dorme, scrive mentre dorme, non si capisce. Sì, Gianni, ti puoi chiedere, mi servirebbe per domani un test a due personaggi. Atti, lui ti dice, unici. Ma domani no, dopo domani, verso le due chiamami che te l'ho fatto. No, vabbè, dai, sei bravo Gianni, si può dire delle persone che fanno tanto e che riescono a fare pure tanto e lo fanno bene, eh? Non si dice delle persone che fanno tanto e male, questo no. Per cui siete in scena, è nata così, insomma, questa avventura, vi siete specchiati, ma parli mai di te nei spettacoli? Gianni, ci parli di te? Sì, c'è sempre il pizzetto. Ci sei? Qualcosina di me ovviamente c'è sempre dentro, è chiaro, sì. Beh, poi questo testo in particolare... insomma, parla degli anni, sì, ricordo gli anni del liceo passato al Dante Alighieri di Roma, glorioso Dante Alighieri. Che liceo era Dante Alighieri? Classico, liceo classico, beh, certo, sì, Dante Alighieri, pure io che domande. Geometra. Scusa Gianni, ho fatto l'ISEF. e poi appunto, diciamo, è stato un matrimonio felice con Paolo, perché appunto lo stimolo è venuto anche un po' da lui, voleva fare questo un monologo, io gli ho dato degli input, dei suggerimenti accolti da lui, e poi ovviamente mi sono un po' sentito libero di fare quello che fai volevo di mestiere. È piaciuto a Paolo e eccoci qua. Perfetto. Ecco. Gianni, grazie. Volevo soltanto questa testimonianza prima che il mio amico magari dicesse nomi in libertà di bravi autori che girano, si vantasse di qualcosa non reale, avesse stampato questa brochure, devo dire poi bellissima, con il grande Lucio Battisti al suo fianco. Bell'immagine. Leggo alcuni, bello, queste sono le cose che si mettevano una volta, le critiche, no? Gli estrapolare le critiche. Sicuro nei tempi comici, abile e sornione. Marco Antonio Lucidi, che è durissimo. Sì, sì, tempi sì, del sì, Messaggero. Era abbastanza terrorizzato. Invece... Lui terrorizza. Sì, sì, io non stato... sapevo più come. È stato molto generoso. Quando ero con l'Allegra Brigata, prima della ditta, lui veniva a vedere i spettacoli. Io non so che. Io volevo mettere un giorno, io ho messo vicino una bella. No, ho fatto qualsiasi cosa pur di non far parlare male dello spettacolo. Un monologo emozionante, Paolo Leone del Corriere dello Spettacolo, uno straordinario monologo, Alessio Neroni, Teatro per in Sala, triestino, è di una bravura esorbitante, dice anche Marco Rossi, si segue tutto d'un fiato, Teresa Pierini. Mi viene in mente, queste sono critiche vere e importanti, mi viene in mente una critica divertente invece che era stata scritta in Inghilterra, il pubblico si divideva in due parti, chi fischiava e chi applaudiva chi fischiava. un fiasco vabbè, totale. Scusa, a questo proposito, scusa, io trovo un altro aneddoto meraviglioso. Pare che George Bernard Shaw, durante una sua prima, dopo una sua prima di un suo nuovo testo, c'era il pubblico che applaudiva in visibilio. C'era soltanto un signore in prima fila, con la faccia anche un po', diciamo, seriosa, che guardava con braccia conserte, dichiaratamente si è annoiato. Annoiato e comunque contro tutto. E lui ha fermato gli applausi, guardando. Questo signore ha detto: caro signore, io sono d'accordo con lei, ma che dobbiamo fare? Abbiamo il mondo contro. E io una volta sono andato avanti per anni a dire: una sera la devo dire questa. Sì, mi ricordo, sì, a Torino, mentre facevamo un Ben-Hur proprio scritto da Gianni, da cui poi abbiamo Nicola, tratto, sì, da cui siamo ancora utilizziamo, sì, a farlo, Nicola Pistoia, lavorate da sempre, cui abbiamo, sì, anche tratto un film, per Rai Cinema. C'era un signore seduto in prima fila che niente, non ha tutti in piedi, e lui si è detto: scusi, io lo devo dire, una vita che lo sogno di dirlo. E ho detto questa cosa di George Bernard Shaw, e lui è scoppiato a ridere, si è alzato in piedi, applaudito. Bisogna utilizzarle, sì, certo, sempre. Dai, bisogna sempre citare però chi li ha detti. No, quello sì, perché non ne prendi una, sennò è Rubi. Fai tante citazioni, una, esatto, è Rubi. Esatto. Un'altra critica, Pino, poi. Sì, Pino, amico mio. Prima che, non so se sei, state 7-1. Vabbè, no, 7-2, 7-2, tempo. Sì, ma fa, c'è, cioè, un campionato che diventa un po' ironico, insomma, cioè, non si è mai segnato così tanto in un campionato, soprattutto la mia Lazio, si fa 7 gol a Sampdoria. Vabbè, gioca in 10 la Sampdoria, però. Ho capito, sì, però una volta in 10 riuscì pure a vincere una partita. Come no? Certo, anzi. Sei un po'... Caro Pino, tu sai che io e Paolo... Insomma, sì, no, ma non solo te, Paolo, si vive in una società multilaziale, lo capisco, però io... cerco di convivere questa realtà in maniera molto onesta e oggettiva, in fin dei conti. Ho anche accettato un derby all'andata quando avete vinto, ci sono i miei due autori, Alessia Navarro e Mauro Meconi, che sono ovviamente della Roma fino all'inverosimile. Sull'1-0 non mi dissero niente per farmi continuare la trasmissione sereno, insomma, ma non è che a me mi cambiasse chissà cosa, però insomma... Sul 2-0 non hanno retto, sono entrati e hanno fatto il trenino del Bari mentre ero in diretta con Enzo Avitabile, capito? Cioè, cose, cioè, non si sono tenuti, e tu capisci a che punto arriva la goliardia calcistica in questa città. Va bene, amico, va mio, bene. Grazie, oh, Gianni, buon, ciao, tutto, ciao, amico Gianni, mio. Aspettiamo tutti a teatro. Assolutamente sì, un abbraccio, ciao, forte. Ciao, ciao Gianni, ciao, ciao. Allora abbiamo appurato che è vero. È, sì, è vero, è vero, ho l'autorizzazione di Gianni. Non ce l'hai, sì, un pezzetto a memoria? Cioè, a memoria ce l'hai tutto lo spettacolo, ma un momento ti viene in mente che si può estrapolare? È difficile, a me quando me lo chiedono. No, guarda, è un momento molto quanto divertente. Quanto abbiamo qui ancora di minuti? Che chiedo, perché hanno 2 minuti ancora, me, 2 minuti. Ah, guarda, no, cioè, un momento divertente, però lo spettacolo in realtà ha molte cose divertenti, molte cose commoventi. È un atto unico? Atto unico, un'ora e 20, un'ora e 25, si va via, si va affilati. È molto bello, c'è mio cognato che a un certo punto dice una cosa bellissima. Ma tu sei solo in scena? Io sono solo in scena, ma faccio anche Remo. Fai, io tu, mi sono scordato di me, esco dall'ospedale perché mi è stato asportato un pezzettino di cervello che ha cancellato completamente tutta la zona grigia della mia vita, per cui io non riconosco più nemmeno mia moglie, che si è rifatta le labbra e dice: chi è quella? Una cernia. E mio cognato che mi accompagna all'Hammer, cosa che ho anch'io, e io sono lì sperduto su questo che a me sembra un mezzo da sbarco, e lui mi ricorda quello che sono, mi dice che un certo ma te lo ricordi che te ce l'hai uguale, che facciamo pure a ditta Respurgo di papà insieme, te la ricordi? Era un grande papà, te lo ricordi che diceva: morte Spurgo, non te puoi sbagliare, non se smette mai a morire a cagato, ricordi questo? E questo è un grande applauso, ovviamente, però poi contemporaneamente ci sono delle cose meravigliose. C'è un omaggio ad esempio alle palme, che ormai sono tutte sparite, che io ho rivissuto con grandissimo dolore adesso che siamo andati giù in Puglia a fare uno spettacolo, a vedere le piante di ulivo carbonizzate dalla xylella, che è un dolore quasi fisico, lo stesso dolore che provo tuttora quando vedo una palma che comincia a morire, a sfiorire. E ho chiesto proprio a Gianni di dedicargli un pezzo, lui ha veramente scritto parole che poi magiche. Diventa sicuramente una metafora sulla fine di qualcosa nella vita. No, che non quando è dice, solo ora, la palma. Ora quella non è più una palma, somiglia a un Cristo in croce con il capo reclinato e quelle braccia che svettavano verso il cielo a formare un ventaglio traforato per fare ombra, sì, ma anche per lasciare che il sole penetrasse, a regalare segmenti di luce. Ecco, ora sembrano quei rami due braccia morte adagiate sui fianchi in segno di resa a qualcosa di terribile. Ma che gli hanno fatto a quella palma? Er punto rolo rosso, dottò, er punto rolo rosso non perdona. L'infermiere secco, definitivo, benché afono. Come il punto rolo rosso? È una specie di bagarozzo rosso che si infilta dentro e gli si magna l'anima. Stanno a morire tutte. Che bella roba. Questo è Gianni. Questo è Paolo Triestino, signori, a tra poco. Voi sanatomi. Faircam Air & Ocean, spedizioni mare aereo in mani sicure e pratiche doganali risolte. Faircam.com. Vi presento. Voice Anatomy. Bentornati, signori, l'ultimo momento insieme con Paolo. L'ultimo momento per adesso, per questa domenica, ovviamente. Sono un momento veramente emozionante, Paolo. Vabbè. Che bella cosa. Ti ringrazio. No, ma è bello perché poi tu sei un attore che non ti prendi sul serio, nel senso che navighi da questi momenti di grande poesia e di grande rottura, ma sempre poetica, sempre teatrale, sempre bello. Cioè, sei l'attore che ha voluto 3 volte con sé Verdone, ma sei l'attore che ha voluto 7 volte con sé Gabriele Lavia. E questo sì, ti fa capire sì. Qualcosa. Pure Pistoia te vuole. Sì, pure Pistoia, io voglio lui. Siete, certo, una coppia di Nicola fatto, Pistoia. Sì, siete sì. Una coppia ma di c'è fatto. Stato un lungo periodo che le persone mi chiedevano, invece di chiedermi come sta tua moglie Alessandra, a cui mando un bacio grande grande via etere, e che diceva come sta Nicola? Bene, insomma, certo, ma pure mia moglie, pure i figli crescono. No, Nicola, che me frega tu figlio? C'entra niente. Volevo sapere se di là la nostra amica Rachele ha fatto quella telefonata che avevo chiesto al nostro... Sì, ecco, così facciamo intervenire anche lui, che è un altro grande personaggio, mi sembra carino, che sposi il momento teatrale di Paolo Triestino, che ricordo, lo stiamo urlando, che sarà in scena al Teatro Vittoria dalla prossima settimana, da adesso, da mercoledì, dal 10 al 14 maggio al Teatro Vittoria, con questo Eppur mi sono scordato di me. È bello questi momenti, della palma è bellissimo. È meraviglioso, ma guarda che è un dolore fisico, insomma io credo che anche tu l'avrai provato, sì, no? Queste palme che improvvisamente sfioriscono, sì, e tu pensi che non c'è niente da fare. Niente. Ma com'è possibile? Il lungomare di Marsala era di una bellezza, sì, era sì. Non c'è più, non esistono più. È come se metti le finestre al Colosseo, cioè, e tu improvvisamente giri un angolo, anche quando tagliano un albero, no? Certo. E già tu provi, dici, ma che è cambiato qualcosa? Esatto. Tu pensi a un lungomare con 50 palme, una centenarie, meravigliose, e tutte rasate, non c'è più niente. È una cosa terribile. Tu pensa sugli ulivi, io spero che facciano ulivi, qualcosa, uguale, perché lì, sai, le piante sono ornamentali, è dei datteri a noi, trovano delle armi che ci frega. Uccidono le persone senza scomporle e non trovano... La xylella, ma la vogliono trovare, chi, una nostra amica di lì ci ha raccontato, qui ognuno fa quello che può, si va sui dice, perché l'indicazione che dà la comunità europea è quella di tagliare tutto ciò che è sotto 1,5 metri, perché questi insettini della xylella saltano e si attaccano alle foglie, però saltano fino a 1 metro, quindi voi tagliate fino a 1 metro, però è tutto sui si dice. Perché in realtà dovresti, però credetemi, gli ulivi carbonizzati diventano neri, sembrano quelli del bosco di Biancaneve. Poi noi siamo, cioè, insomma, una roba terribile. È come un aranceto, no? Cioè, è roba nostra. Ma di più. Ok, ce l'abbiamo? Allora, pronto? Pronto? Dottor Pingitore. Ninni! Qui io sono Pino Insegno, lei non mi conosce bene, ma vicino a me c'è Paolo Triestino. Ah, Paolo Triestino, conosco benissimo. È un grande attore, mi ha fatto ridere una battuta che ha detto prima, quando diceva, sai, perché io in questo spettacolo poi mi ricordo quando c'avevo i ricci. Ora, siccome lui c'ha una capoccia come una boccia, è vero, questo ricordo deve essere proprio ancestrale. Ma non ti può far ridere una sofferenza dell'uomo, Ninni? Ti prego. No, ma io sono molto meglio ora. Proprio mia figlia ha visto una foto mia del matrimonio con i ricci. E ho detto, no, i ricci già non li avevo più, però pochi capelli, papà, non te se può vedere, stai molto meglio così. Ma io ho sempre conosciuto così. Sì, lui è nato così. È nato anziano. Di aver avuto i ricci, non è vero. Ma non è vero, Ninni. Io non lo è conosco vero. Da quando aveva 4 anni, è sempre stato. Esatto. Ma già faceva calmo. I fratelli Karamazov la parte del padre e aveva 4 anni. Questo ha sempre fatto. Senti, lui è in scena dal 10 al 14 maggio al Vittoria. Tu invece al Salone invece Margherita? Io dal 10 al 15, dal 10 al 14 pure io. Pure tu al pure Salone no, Margherita. Quindi non ci vedremo a vicenda. Esatto. E chissà se sarà uno svantaggio. La grande ironia. Tu sei con la trilogia del Duce, quella bellissima, o sono gli ultimi due capitoli sì, insieme? Sono gli ultimi due atti. Gli ultimi due atti. La trilogia, come tu hai avuto visto, sì, l'amabilità di ricordare, e comprendo parte da quel 25 luglio a Villa Torlonia che sì, facemmo, che l'hai fatta, diciamo, a Villa Torlonia affrescati, Villa sì. Torlonia, che era molto suggestivo. Poi ho fatto Operazione Quercia al Campo Imperatore, nell'albergo in cui Mussolini fu prigioniero, da esatto, cui fu liberato il 12 settembre del 43, e poi l'ultimo che ho fatto poco tempo fa, che si chiama Scacco al Duce, ed è in pratica l'ultima notte passata da Mussolini e Claretta nella casa di De Maria sul lago di Como, e in questa notte ovviamente. Devo dire molto poetico e molto emozionante, raccontato con uno spirito filologico vero, da storico vero, e soprattutto da commediografo vero, cioè è emozionante. Beh, e con Luca Biagini. Pazzesco. Luca Biagini pazzesco, è formidabile. Pazzesco. Io non sono un commediografo né uno storico, sono un commediante, uno sì, che si spaccia. Perdonami allora, scusami, capirei io se sbaglio un articolo, un congiuntivo con Ninni. Tu hai avuto il piacere di fare qualcosa con Ninni? Io sì. Io ho fatto io una sì, cosa, cambiavo magari un articolo e lui veniva, guarda che se c'è quell'articolo, l'autore è vivente, vuol dire che lo devi dire. Scusa, sì, ho levato il, ho messo un. No, Ninni, sei Ninni, il su è questo il. Non. Però devo dire, a quel senno di poi ha anche ragione, perché avendo tanti attori creativi sul set, se ognuno comincia a fare come gli pare diventa. Lui dice, l'autore è vivente, c'è scritto un articolo determinativo, se non scriveva un articolo indeterminativo. Certo. Va bene, ho cercato sempre di arginare i creatini. I creatini. Quanto sei bagaglino, mamma mia. L'hai inventato tu. Che vuoi farci, Ninni, ti voglio un bene dell'anima, lo sai. Anche amico mio, ti Tanto. Ninni, anch'io. Ma sì, anche a Paolo. Anch'io proprio tanto. Potremmo sposarci in tre, ma. Questo outing. Grazie Ninni, bocca al lupo per la sala, il Salone Margherita. Grazie, Bagaglino, con questo due atti unici su questi ultimi due momenti di questa trilogia bellissima. Un bacio enorme Ninni, in bocca al lupo, tanta merda. Arrivederci. Ciao. Allora, caro Paolo, c'è ancora Capuano che chiudiamo con lui e con te. Eccomi. Fantastico. Sei tornato, Capuano, per darci i risultati di tennis, sì, immagino. Siamo oltre il tennis, se ti riferisci alla Lazio, 7-3. Sì. 7-3, sì, perché è andata sul 7-1, c'è stata anche la doppietta di Immobile, poi alla fine sta facendo, perché non è ancora finita in realtà la partita, una doppietta a Quagliarella, l'ultimo sul calcio di rigore pochi istanti fa, siamo in tempo di recupero. Però ti comunico che la Lazio è ufficialmente in Europa League. Benissimo. Ha vinto e quindi è ufficialmente in Europa League. La Roma gioca stasera? Stasera. Sì, Milan-Roma. La Roma gioca questa sera, sì, a San Siro. Contro, gli altri risultati? Contro Dunque, gli altri risultati. L'Inter è sotto 1-0 a Marassi con il Genoa. Decide un gol di Pandev al 25esimo del secondo tempo. Pandev, doppio dolore. Sì, ma gol dell'ex è scoppiata. Non è risultata. L'Inter è scoppiatissima. Non è scoppiata, questa è, sarebbe, vediamo, perché siamo nel terzo minuto di recupero. Terzo e ultimo minuto di recupero, sarebbe la quinta sconfitta nelle ultime 6 partite. I cinesi vanno via. Non lo so se i cinesi vanno via, non so se Pioli va via, ma Pioli, insomma, sicuramente è un periodo un po' così. Ha sbagliato un calcio di rigore l'Inter con Candreva al 42esimo del secondo tempo. Bene. È appena finita Chievo-Palermo 1-1, che sancisce la retrocessione ufficiale aritmetica del Palermo, che dunque Palermo, è la seconda squadra a scendere in Serie B dopo il Pescara di Lazio Sampdoria. Ti ho già detto, è finita anche Sassuolo-Fiorentina 2-2, ed è finita con due gol negli ultimi minuti, il 2-1 di Iemmello per il Sassuolo e il 2-2 al 94esimo di Bernardeschi. Sempre comunque Fiorentina ultimamente 3-4 partite se fa 94esimo. Sì, va bene. Gol che però serve a poco, perché in realtà aggancia al settimo posto l'Inter, ma l'Europa League in questo momento è ancora distante. Vince 1-0, e questo invece è pesantissimo, il Crotone a Pescara non è ancora finita, ma tiene aperta comunque una speranziella di salvezza. L'Empoli, anche se in realtà sta vincendo anche l'Empoli, che quindi è a quota 32 punti. L'Empoli avanti 3-1 sul Bologna, il Crotone in questo momento di punti ne ha 28, però mancano 3 giornate alla fine e quindi non possiamo escludere comunque ancora, non possiamo dare chiusa la lotta a 2. Mentre il Genoa, se dovesse vincere, cosa che accade praticamente in questi istanti, si salva, diciamo, con la partita di oggi. Non manca credo nessuna partita. Udinese-Atalanta 1-1 ed è stata la partita delle 12:30. Il Genoa ha vinto, quindi gol di Pandev decisivo. Genoa 1, Inter 0. Genoa quota 33 punti, non è ancora aritmeticamente salva, ma evidentemente quello di oggi è un passo avanti decisivo, mentre quella di oggi è di fatto la fine della stagione dell'Inter, anche se in realtà questa sera il Milan, se non dovesse battere la Roma, terrebbe aperta una porta per l'Europa League. Benissimo, amico mio, ti ho detto tutto. Sei fantastico. Ciao. Sei il vero commentatore sportivo, non Paolo Triassino, che è il vero attore. Chapeau. ciao Capuano, ciao, buona trasmissione, buoni tutti convocati. Paolo, grazie, in bocca al lupo per questa bellissima nuova avventura al Teatro Vittoria. Grazie. E grazie a voi, come sempre, di volerci così bene. Ci sentiamo domenica prossima. Voi sanatomi. Ciao.